visto le sbocciate. Era che ha messo quella foto? Non lo so, amico tuo. Che voleva fare il molesto. Ma è avanti sempre di facile. Sì, sì. Ora tutto. Oh! Oh! Però! Liberissimo di andare in diretta, se vuoi. Su Spancia. Allora, dovremmo essere effettivamente in diretta. Sì, è in diretta ora. Vedo perfetta l'immagine. Era sembra che andrà. La vera e con la maledizione e Kunsen Dragons. Avete seguito i canali. Cos'è che qui tempo? Com'è che si chiama il podcast? Sallotto. Dignino. Il mio sallotto. Dignino. Ma si può chiamare il mio Dignino, è bello. Un altro cane poi. Ah, oh. Parliamo di da merda, io voglio dire che sì. Vabbè, Green Book, gran film, guardatelo tutti, è un po' vecchio. Ah, Green Book. Ah, ah, l'ha consigliato. Quello è bello, bello, bello, bello, bello. Esatto, quello con Aragorn. Esatto. Almeno due ha visto la stanza. Ciao Alessandro Jimmy Musi. Oh, Jimmy. L'altra volta sei andato via Alessandro. Prima della rissa. È vero. Questo giro andremo ad iniziarla prima. Ah certo, iniziamo. Scuso, esatto. E finalmente il mio personaggio morirà e sarà. Sei scappato. Dicevo, come un vigliacco. Dicevo a Katta che ho già pronto il mio secondo personaggio. E il mio secondo personaggio si chiamerà Strad Junior. E sarà un figlio bastardo. O meglio, penserà di essere un figlio bastardo di Strad. Sarà di essere la cosa più bella. È adatto a te. Secondo me non si chiama Strad Junior. Si chiama tipo Strad Land o Strad Blood. Cosa? Non so come si chiamano i bastardi in questa. Ah, vabbè, sì. Vabbè. Scusa, quello ci vedremo, insomma. Fog, dato la. Bello! Però. Bello Strad Fog. Secondo me non è il personaggio di Giulio che viene da dalla Barovia. Secondo me è Giulio che viene dalla Barovia. Ok, allora. Non ha già detto Strad che mi trovo bene. Onde evitare spargimenti di sangue non necessari, recuperiamo la sigla di Katta. Oh, e quindi può fare il... No, e quindi fai il riassunto tu, in quanto imparziale. Sì, in effetti sì, ha senso che la faccia tu, sto giro. Ci sta. Beh, cioè, basta raccontare i fatti come sono andato. Obiettivamente. Obiettivamente. No, la Mister, no, ma io. Scusate, non la voglio giocare la sessione. Perché? È un po' inquietante, perché? È presa apposta. Ah, comunque. No, sì. Vabbè, siamo i soliti. Da Bologna, Andrea Giacomo Vecchi, Giulio Posi, Master Rico Catabriga, Stefano Gamberoni. Forse arriverà Francesco Arcidiacono. Salutiamo invece Luca Lazzarini al baro Gnacardo Bari. Comunque tu sia roba bene. E invece dal per la prima volta da Copenaghen abbiamo conquistato un nuovo paese. Vabbè, sul caso è Copenaghen. L'isola Copenaghen. Sì, perché adesso che è ricco già intanto ha comprato un'isola. Poi vede dove sistemarsi. Tanta roba. Beh, è quello che hai sempre sognato. Comunque, Edoardo Saladini. From che non vedrete, ma sentirete forse un po' in sottofondo. Graziano. Comunque, dai, Tycoon Sandragos ha conquistato un nuovo. Nuovo posto. Esatto, un nuovo stato. Qualcuno si è trasferito in Germania, ragazzi. Se volete fare un episodio dalla Svezia, me lo dite. Fa il passo via da Monte. Ok, va bene. A Gotebori. Lo puoi fare in beach? Beach un po' lunga. Non è che hai detto beach. Beach. Bene, bentrovati ragazzi. È stato un po' di tempo fa che ci eravamo lasciati scambiandoci accorati segni di pace. Sì. Ah, sì, finalmente per più o meno un secondo il party si era riunito. No, vabbè, adesso io dico no. Beh, almeno era diciamo nel raggio di 100 metri. Esatto. Era un soffio. Ciò che è rotto non possa mai più aggiustarsi. Allora, la scorsa sessione con la maestria e il regista della puntata ha fatto un gioco di inquadrature per cui cambi di scena per cui in contemporanea tre del gruppo offrivano il loro berettano, io volevo dire la loro promessa di fedeltà al conte in cambio di chissà quali promesse di salvezza e di avere risparmiato la vita. Nel frattempo, dall'altra parte, la povera Irina era quasi sul punto di ricongiungersi col suo amato, il fratello del conte. Però era lì. Di fatto da lì poi non siamo andati molto avanti, perché nel frattempo appunto il conte, hanno visto quelli al castello che ha percepito che qualcosa non andava, si è dovuto assentare un attimo. E nel frattempo dall'altra parte livello moriamo. Se succede qualcosa, zitto! Infatti mi sono reso conto di quanto sia appropriata questa maglietta per questa film. Zitto, che il master sta parlando. Bravo. Gli altri tre hanno visto il cielo rannuvolarsi e un gigantesco tuono ha colpito la fontana benedetta. Il fulmine, comunque. Esatto, il fulmine. Non c'è il fulmine. Ha colpito la fonte. Ha colpito il tuono. Il tuono, sì. Effetto danni da solo. Ora è il dio del tuono, non del fulmine. Ma colpisce coi fulmini, va bene. Va bene, Sceva. Abbiamo capito. In quel momento, per fortuna, nessuno nella di vita voi reale si stava dissetando alla fonte perché sarebbe stato investito dalla potenza della scarica. E l'immagine che del povero Sergei è ormai solo un ricordo. La fonte è stata profanata, quindi ora è torbida e non garantisce più le proprietà curative che aveva una volta. Un'altra città mandata a puttane, ragazzi, siamo nel fenomeno. Il gazebo su cui vi stavate riparando dalla pioggia, perché in tutto ciò continua a piovere, è distrutto. E quindi prendendo la situazione tra le mani, Vardistrand decide di prendere Irina e di scappare all'abbazia pensandola un posto sicuro. Mentre vanno in su, Irina gli dice che ha avuto come un risveglio. Adesso si risveglia una forza. Esatto. Si ricorda tutte le vite precedenti che la sua anima, quella che è originariamente apparteneva a Tatiana, la promessa sposa di Sergei e il mio obiettivo delle ambizioni di Strad, ha dovuto passare nei secoli, comprese tutte le varie sofferenze e ovviamente le fini atroci che ha dovuto sopportare, ma nel suo sguardo adesso non c'è più paura, ma consapevolezza e determinazione. Arrivate quindi all'abbazia e vi trovate dei simpatici inquilini. E fate conoscenza con la famiglia Bellevue. Simpatici inquilini, direi che non è proprio l'abbazia. Okay. Se volete vedere, non so se i nostri amici mitteleuropei se li ricordano, erano questi mischioni di parti di animali di forma umanoide e vi raccontano la loro storia. Erano una famiglia di lebbrosi che sono arrivati in cerca di cure al monastero, all'abbazia, e le cure le hanno trovate e più anche di quello che loro potessero desiderare, perché grazie all'intervento, vi racconta l'abate di cui avete fatto conoscenza, di il misterioso Vasili von Holtz, poi rivelatosi il conte Strad in persona, per curare le loro piaghe è riuscito a curarle in un modo un po' creativo. Questo non ha però dispiaciuto ai Bellevue, che la seconda vita, infatti. Che anzi gli piace molto avere la forza del toro, le ali del pipistrello. Strad è un sant'uomo, bisognerebbe che sempre sia lodato. I pazzi dei polli. Fate conoscenza con l'abate, appunto, una creatura che ci facciamo anche noi metà dei pezzi di animale. No, lo fa culo. Prova. Una creatura che vi dicono essere lì da almeno 100 anni, ma non essere invecchiato un giorno. Non sembra però un vampiro. L'abate questo. Sì. Sta alla luce del sole, beve vino e insomma fa le cose che fanno le persone normali. A parte, appunto, vedete la sua dedizione nel sperimentare e cercare di mettere insieme pezzi di dubbia provenienza, e vi mostra orgoglioso la sua creazione. Fate conoscenza di Vasilka, questa donna dalle fattezze familiari, che ovviamente vi ricorda benissimo la vostra amica Irina. Creata per soddisfare la mancanza di amore di Strad, e l'abate gli spiega che il signore del mattino stesso gli ha detto che gli ha detto che per spezzare la perché è creata dal dottor, però vabbè. E perché lui ha convinto fermamente che per spezzare la maledizione Strad dovrà ritrovare il suo amore, e lui sta cercando di ricrearglielo. Vi dice quindi che tra pochi giorni verrà qui a conoscerla. Il dettaglio, se l'ha detto o se non l'ha detto non mi ricordo, ma su richiesta o è stata una l'idea della base, che vuole fare una sorta di regalo, l'idea originale, esatto. E lui adesso andrà a vederla in teoria tra qualche giorno, due o tre mi sembra, non mi ricordo, tre. Dovrebbe arrivare tre in giorni. Persona il terzo giorno. Ma perché scegliere un'opaca controfigura quando può prendere l'originale? Per questo per questo l'abate vi ha detto, almeno i primi che sono arrivato, ma probabilmente lo dirà anche i secondi, che c'è necessità di un abito da sposa, e l'unico abito da sposa che avete visto era in quella, no, era a Vallachi, nella casa che volevate dare le fiamme. Ma io provato a dare fuoco, e secondo me l'interno dovrebbe essere bruciato. Per scoprirlo dovrete ritornarci. Questi sono i cavilli dell'avventura che noi rifiutiamo. Tu vuoi dare i rini a sposa? Vabbè, Strage avrà degli abiti da sposa. Vabbè, ma sì, esatto. Non è carino. Non è che gli ha da nuda. Comunque glielo faccio io. Cosa? L'abito lo fa il monaco, in questo caso la base. Non so come verrà, ma vabbè. Ovviamente lui ne vuole uno. Posso sempre figo. Spacciarlo come alta moda. Concettualmente non ci può arrivare. Se voi non siete interessati, sì, troverà un altro modo. Abito ristrutturato, indubbiamente. Fate conoscenza. Di un altro vino arriva. Mi ce l'ha chiesto. L'abate non ci vorrebbe un po' di vino. Non ha ancora per innaffiare il banchetto nuziale. Hai sentito cosa ha detto? Non ha ancora chiesto il vino. Però un po' di vino. Ce n'è. Alla fine faremo. Però ce l'ha. Abbiamo visto. Faremo la quest del vino senza Vez e saremo acclamati imperatori di Barovia per aver preso il vino. E Vez invece sarà il verme per la testa. E dovremo tipo condannare a morte Vez una volta che siamo in tolto il vino. Vedete, ne vedete nella tavolata della sala in cui fa tutte le presentazioni. Conoscete Vasilka e poi anche Clovin, il suo fido servitore, quello con due teste, che appunto lui cerca di rimanere il più possibile ubriaco. È diventato tipo dobbiamo fare una prova per non impazzire davanti a sta roba. Le regole della sanità, infatti, me le dovrei rileggere. Perché? Una grande idea. Passate appunto. Prendere il vino davvero adesso. Ubriaco la città, E dico, seguitemi contro Strad! Orde di ubriachi, è l'ultima possibilità. Sì, un'orda di ubriachi contro dei vampiri. Beh, direi che... Se bevono il sangue, poi si sbronzano anche loro. Geniale! E va bene. Geniale. Ma purtroppo non funziona. Vedete nella stanza in cui sta... Sembra provare, un po' di tempo Irina, potrebbe essere un po' esigente. In cui sta il Colvin, questa campanella e questo tavolo lungo tipo come questo con sopra un grosso telo nero che copre qualcosa e da lì vi porta sulle mura per andare al vostro alloggio dove conoscete la cosa la, non ragazza. So io non c'ero, non mi ricordo il nome, la Esmeralda cacciatrice, cacciatrice, noi siamo arrivati dopo, non ancora non sappiamo che c'è, sì, però rappresenta la sessione, sì, ho capito, però il mio personaggio non mi ricordo la cosa del telo che copre qualcosa, sai che non mi... Sì, ve l'avevo detto un po' di sfuggita, però passate in questa stanza in cui c'è piena di alambicchi di stavamo cose, già litigando forse, no? E non mi ricordo e passate di fianco a questo tavolo dove c'è un grosso telo nero che copre massa di qualcosa, sì, o meno forma, grandezza, cioè, la forma non è molto ben definibile, però per il mio personaggio diciamo che sono quelle di una persona. Niente, da quando ho dato via la testa a Isabella, okay. Perderà di Isabella Bamba, potrebbe essere una bara, perde completamente la... Ah, adesso no, non è una forma regolare, sì. No, però come dimensioni cose. Per farmi un'idea, è come questo tavolo, okay. E okay. Arrivate alle barracks, che in italiano si dice quella che era la caserma della guarnigione, per raggiungerla passate di fianco a tutti gli spaventapassere che avevate visto, sì, sulle mura. Guardi. Esatto. E conoscete Esmeralda d'Avenir, una vistana, ma non vi sembra come quelle altre che avete visto. E lei ci ha fatto capire che perché conosceva una gamba il che è tipo l'adepta del cacciatore. Esatto. Però non sa dove sia. È venuta qui per cercarlo perché gli è giunta notizia che Rudolf van Richten in persona era venuto a Barovia per porre fine all'esistenza del malvagio Strad. E lei vorrebbe rincontrarlo, vi ha detto sono arrivato qui all'abbazia come ospite, quindi può andare e venire come le pare. E saputo dall'abate che verrà Strad qui in visita, e dato che è un posto molto lontano dal suo castello, ha deciso di cogliere l'occasione e preparargli un agguato. E quindi è convinta da sola di affrontare Strad. E ci vuole provare, chiaramente, se avete un piano migliore è tutto orecchie. In questo momento stai in stand by un attimo che dovete risolvere un paio di cose interne, poi ti dico come. Avete 3 giorni. Vabbè, tanto Vezza è andato via, quindi il problema in realtà si è risolto da sé. Detto questo, appunto, suonano al campanello Dlinlon i 3 dell'Ave Maria, e questa cosa le 3 grazie. Grazie, Graziella, e grazie al cazzo del cuore immacolato di Maria. Esatto. Prega per noi queste elezioni europee. Mannaggia l'emigrato. La Lega è l'unico partito che non aveva presentato nessun programma per le elezioni europee. Vabbè, lasciamo perdere. Beh, il rosario è sufficiente. Esatto. Ah, non era la Bibbia. Io ho letto la Bibbia come programma, ho sbagliato. D'accordo. E a proposito. No, solo la prima parte, però, solo l'Antico Testamento, perché già il nuovo è troppo buonista. È buonista il nuovo. Bello l'Antico Testamento. E quindi torniamo a quest'altro posto sotto l'egida di un pazzo sanguinario. Dico Barovia, ovviamente. Di cosa, di cosa stiamo specifica? Appunto, il povero Vardistran entra a pieno nello spirito della campagna e si imparanoia brutalmente. Si imparanoia. E questo è il giocatore, esatto. Parliamo del personaggio. Ora. Il personaggio decide di portare in salvo da questo posto ormai rivelatosi un incubo in terra, No, vedendo che sono ritornati i tre compagni, decide di fuggire. Convinto che sei convinto tre compagni, che stai facendo tu il desunto. Hai capito? Non sei fuggito perché hai passato una serata nel manicomio. Il tuo personaggio è convinto che essendo tornati sani e salvi ed incolmi. No, infatti, io non ho detto niente, io ho detto che è fuggito quando siamo arrivati. Non mi fido né di loro né dell'abate, e quindi è un ottimo momento. Ma si fida di Esmeralda, non più di me. Quindi quando gli altri due sono... voi siete troppo naive. Sono usciti a scambiare quattro chiacchiere con i loro tre vecchi compagni. Cioè vecchi, voi sono passati neanche 24 ore. Minchia, che suono? Non è il cellulare. Mi chiede a Esmeralda di indicargli una... Cioè, in realtà volevo che lei venisse con me, però lei vuole restare qua perché vorrebbe uccidere Strad. Vorrebbe qua. Uccidere Strad. Mi scusa, mi sono un po' disperata. E però. Ti dice comunque, appunto, se nutri sospetti sui tuoi amici, io li scruterò e ti saprò dire se sono fondati. Ci sta. Quindi ti indica un canale di scolo dove ci sono tipo le grate in cui una si toglie il paletto per passare. E quindi un po' incespicando sul lato della montagna rotoli a valle. Ma vuoi che tiri? Perché l'altra volta ti avevo chiesto e mi hai detto che ce la facevo, però se vuoi tiro. No, cioè, mi fido di quello che è del mio me stesso passato. Vuoi fare la posturinata? Cos'è la posturinata? Non è niente. Non segui Fumble. Già. Salla capito. Salutiamo i nostri fan. Cioè? Da Poster Gate. No. Perché c'è uno di loro che si chiama Claudio Pustorino, che quando il suo personaggio deve decidere cosa fare non è sicuro e può fare una cazzata, tira un dado per vedere se ce la fa o non ce la fa. No, cioè, perché se lui non la fa la cazzata, cioè letteralmente a farla, a provare a farla, esatto, a riuscirci, okay. Cioè se il suo personaggio è convinto di farlo è un tiro gratuito di dado che non necessario, diciamo così. Nel mentre... da soli. Esatto. Nel mentre che Vardistran torna a Kretzk, alla ricerca di Casimir, Kevin. Sì, Kevin. E l'abate fa il benvenuto ai nuovi ospiti. E no, chi è alla ricerca? Non ho capito. Lui. Ah, lui decide di cercare. Decide di tornare alla ricerca di Nemo. Noi sappiamo solo che è scappato con Irina. Anzi, Capavorone, in realtà si chiama. Figo. Nel frattempo voi altri vi intrattenete con l'abate, che vi racconta anche a voi la storia della famiglia Bellevue, ora diventati Monger, il nome della loro razza. E scambia due parole con te, che gli avevi raccontato le tue origini. Sì, poi io avevo detto un versetto in celestiale, lui mi ha risposto. Lui ha capito, lo parla fluentemente. E sempre in celestiale, appunto. Possiamo diventarci best friend. Vogliamo aprire l'uovo? L'uovo. Ma perché tu a Pasqua ci dai il panettone e a giugno ormai ci dai l'uovo di Pasqua? Come funziona? Dai! No, scherzo, dai, è sempre ben accetto, però fa sorridere che tu arrivi dopo. Perché lo spazio per la cioccolata è occupato dal cioccolato. Cioè, aspetta, traduci. Ha troppa cioccolata in casa. Cioè, mangiate e levatevi da casa. Le prossime esami del sangue che fai? Ce li mandi. Tra l'altro, mercoledì ho degli esami del sangue. Vabbè, stai di giorno il gioco. La madre dovrebbe essere cioccolata fondente. No, scherzo, cioè la mangio uguale. No, però domani non posso fare attività fisica intensa, infatti non andrò a Tai. Infatti. Sì, mangerò tanto. Cioè, proprio lo sport, mi mangio lo sport. Quindi stiamo aprendo l'uovo. Tu. Non hai un uovo di Pasqua lì con te? Mi sembra che non l'ha dato, voglio dire. Io avrei aspettato, non so, l'inizio di giugno, magari per il 2 giugno potevamo aprire proprio di Pasqua. Vuoi tenerlo per la prossima grigliata di agosto? Esatto. Cioccolato grigliato. No, però, quindi Salla, vedete che l'abate è molto una roba incuriosito da Antanas e ci offre appunto, se vogliono pregare insieme alla prossima cadenza, penso siano i vespri, le prossime preghiere. C'è il regalo dell'uovo di Pasqua. Ma c'entra Minnie? Tutto bene. Una maglietta con scritto esci le Minnie. E c'è la frase. Oh. Ah, sono tipo degli adesivi di Minnie. Sei fortunato. Eh? C'è anche paperina. Mezzo, attaccala alla macchina. Una tazza con dei fiocchi. Com'è che si chiamano? Cupcake. Dei cupcake. E nell'altro è uguale. Vabbè, è molto virile questo uovo di Pasqua, eh? Ma te l'ha regalato un credit? Credit non mi regalerebbe neanche una cacca. Ma lui ti ha passato un diamanti. Tu che lavori in Unicredit, Cristo, ma perché non mettete i 20 euro nei banco, ma ti mettete solo i 50 euro? Cazzo! No, sono 20 e 50. Sono per forza i 20. Sei te che hai dei banco sfigati. No, a me mi dice sempre, solo 50 e multipli. Sei simpatico. Perché si saranno mangiati tutti i 20, gli altri sfigati prima di te. Ogni volta che arrivo io, sono 50 e multipli. Cambia filiale. Ma scusami, perché tu vai... Cambia banca, hai ragione, cambio banca, basta. Ma dove sei dal diadante? Sì, quella di... Ma non ci vai mai in orario d'ufficio? Grazie, io lavoro. Che è grande. Ci vado o la sera... No, io ci posso andare in banca. Io ci vado la... Sfortunatamente non è la mia, però. No, o la mattina o la sera. Ma io ti dico che vado. Sì, no, lo so, grazie, gentilissimo. No, perché con la cassa veloce le potevi scegliere. Quei 5 euro valgono molto di più. Ti devi anche le patatine, no, però. No, non mi fai tirare 5 patatine e cioccolato. Mi ha copiato per sé. Ha un esame del sangue. Un gran cioccolato è veramente buono. E vi stavo dicendo, l'abate ti propone appunto di meditare un po', magari gli racconti qualche cosa e lui prova a capire qual è il tuo problema. Quale? Avevamo già deciso su cosa fare, avevamo detto qualcosa, no, era finita. Dovete in burrasca, decidere da farsi. No, noi non sappiamo neanche che Bard. Esatto, siete lì che chiacchierate. Sì, perché io ho parlato con voi, poi gli ho detto rientro, che gli vado a dire... Com'è andata? Non è andata, non c'era. Sarà andato in bagno. Con Irina. Ah, ok, sì, è tosto. Ehi! Tanta roba. Qualcuno non sarà molto contento. Tanta. No. Molto bene. Siamo in un bel guaio. Guaio. Quindi. Io vi riferisco che è scappato con Irina. Perché non lo vedi, come fai a sapere che scappa? Metta game! Vabbè, era piano di sopra. No, non sai. Vabbè, lo cerco un po' se non lo trovo. Ok. Lui va. Vabbè, io vado quello da Barte a pregare. Okay. Anzi, facciamo così. È riuscito solo io. Mm-hmm. Arce era rimasto dentro con Vezzo, ricordo bene. No, io e Arce eravamo due Arce. Vabbè, sono io. Siete lì che chiacchierate. Vabbè, lo cerco. Vai a cercarlo. Dove lo cerchi? Ah, ho pure portato il pisellone. Infatti è uno di... Ok, per un attimo ho pensato a qualcosa. Prima ritorno dove l'avevo lasciato. Dietro la feritoia. L'ingresso è qua, dove stavate parlando. Ma dove c'è torno dentro e lo vado a cercare, non so, le feritoie che abbiamo detto saranno qui all'ingresso. Voi eravate qua, le feritoie erano qua dentro. Ah, con Bezza eravamo già alle torri qua. L'ingresso è qua. Allora torno qui. E non c'è. Allora scendo e dico, rega, non c'è qua. Vado a cercarlo nell'abbazia. Bene, voi altri nel frattempo cosa fate? Non so, ho detto oppure... che vado con la base. Vabbè, aspetta, se no dico a tutti, se entriamo tutti all'abbazia e raccontiamo a Vezzo la situazione. Va bene, se l'abate è d'accordo. Certo, anzi vi propone se volete fare un giro turistico. Siamo diventati migliori amici. Dell'abbazia, certo. Sarà ben felice di farvi. Voglio sapere tutti i capitelli e la loro storia. Quello lo dirò solo quando arriverà anche Arcidiana. Intanto dico all'abate, accetto la sua offerta, però... perché poi voglio rifare il giro, quindi voglio sentire due volte. La sua offerta, però un attimo che ci ricongiungiamo al nostro amico e facciamo il punto della situazione con lui. Beh, immagino sia proprio dove stiamo andando. Andiamo. E percorrete il vialetto quando rientro qui. No. Non c'è neanche lei. Ah no, è Smeralda? No, non c'è neanche lei. E vi mostra alla vostra destra il cimitero, vedete tutte queste simpatiche. Ma è almeno monumentale. Qualcosina c'è. Vuoi allora voglio sapere la storia del cimitero. Duio! Posso farti? Datti un consiglio, sì. Aspettarci per queste cose che... Come farlo? Ma a darci non interessano, a me sì. Come farlo nel podcast di Sarda, spero che guarda. Perché c'è una... Il podcast di Sarda stava col togliere il microfono. Quindi... C'è una... almeno una tomba lo puoi fare anche qui, interessante dal punto di vista artistico. Puoi spegnere catta un attimo. C'è una tomba interessante. Ci sono praticamente le volte in cui tipo uno sta dicendo secondo me questo film è spegni merda e quindi d'altra parte è anche vero che l'autore fa merda. Ma comunque non è vero che tutti i film quindi sarebbe divertente. In realtà di solito l'episodio comincia con questo film fa merda e finisce con questo film è bellissimo. Però una delle frasi ripetute più spesso è questo è fatto molto bene e quindi non mi piace. Di solito questa è una cosa che ho detto spesso. Quella è la prima cosa che ho detto. Esatto, perché la qualità uccide. Allora, è la merda. Smarmella tutto. Entri nel cimitero e vedi... Non hai di parlare con me? No, evidentemente. Tanto dove vuoi che sia andato? Mi dici che non lo trovi, vabbè, cazzo, poi diciamo qua. No, un'occhiatina veloce, non è che stai a farci. Io sono arrivato. Cioè, se ti ricordi, ci eravamo lasciati con... Guarda che Verso è preoccupato di voi, eh. Attento, cioè, ok, no. Ma no, pensavo avessi staccato le conversazioni, no, invece non te ne è fregato niente. Cosa vuoi che faccia? Che scappi via da solo? Beh, Vez è preoccupato, noi ti abbiamo detto, vabbè, fallo uscire. Io sono scappato. Tu sei arrivato, non lo trovo, vabbè, trovalo. Cioè. Allora, molte delle tombe sono. Che ci devo fare se non lo trovi? Dei vecchi preti e suore che abitavano nell'abbazia. Ci sono vari nomi, come fratello Martek, fratello Valen, sorella Costanza e sorella Lenora. E... Fortunato. E poi c'è questa tomba, la tomba del sole. È molto decorata. Effettivamente. Molto Barovia style. Non l'aprirei senza gli occhiali da sole. E... E poi... Meglio la maschera da che poi chi recupera il mega medaglione per sterminare Vlad, Strad, scusate, sono io. Vlad. La tomba è decorata con delle rose scolpite e c'è al centro un indentation, cioè un basso rilievo a forma di sole. E, scolpite... A forma di sole, con i raggi. Che sole è? Con i raggi. Dai, non è mai disegnato da bimbo con i raggi. Non so, ho cominciato a far così. I raggi, vabbè. È un sole col Parkinson. Non so. Sotto questo. Sembra un questo. Cuscino. Magari è fatto così, come il sole di Dorn, no? Così. Esatto. È così anche quello di pelo. Molto più semplicemente. Va bene. No? Quello. Vabbè. Sotto questo facciamo i riferimenti interni al gioco, diciamo, è scolpito il nome. Il nome è Petrovna. Oh, qui giace. Ah, perfetto. Rievocata. Conte Stran. E chi giace in questa tomba? Ah, più il mio personaggio non lo sa. Ma ti ricordi? Lo chiedo all'abate che è qui da centinaia d'anni, scusate. Ma in effetti voi lo sapete la roba del doppelganger? Sì. Qual è la roba del doppelganger? Che Tatiana, Irina Tatiana, compare come spirito nelle varie donne. Sì, sì, perché l'abbiamo scoperta Vallatti sostanzialmente. Poi Strad ha detto. Tu lo sai, lo sa, no, ma tu tanto sa che lui quindi ha una gemma per arrivare qua, probabilmente. No, ce l'ha raccontato Casimir. l'ha raccontato anche Strad. L'ha raccontato anche Strad, ma tu non c'eri. Sì, no, quello non c'ero, però io lo so perché Casimir ce l'ha detto tutti. Però effettivamente io non so. Però Petrovna non era un doppelganger. Non era l'incarnazione, lei era. L'originale. No, sì. No, Petrovna. Petrovna era Tatiana. La sorella di Casimir. Era la sorella di Kevin. Cazzo, è vero. Quella lapidata. Sì, è vero, è vero. Lei non era una reincarnazione. Lei era semplicemente una che si voleva bombare Strada. Ma io ero convinto che fosse però una reincarnazione. No, perché sono tutto umane in realtà. Sì, sì. Tu dove... Vedi? Strada avrebbe potuto finalmente trovare l'amore con un'altra persona. Però, e Kevin di merda gliel'ha impedito. Tecnicamente noi non sappiamo se voi lo sapete. La storia del doppelganger. Sì. No, sì, cioè, perché eravamo insieme. Ha raccontato Casimir a tutti. È questo che volevo. E poi noi abbiamo avuto degli hint extra da Dottor Strad. Comunque ti dice l'Abate che in realtà questa è solo una tomba commemorativa. Perché la il corpo non è sepolta qui. Dove è sepolta? Non ne sono sicuro, ma credo che nelle cripte del castello ci siano ospitate molte giacimenti. Che? Insomma, giacenze nelle cripte del castello di Strad. E perché fare una tomba qua se c'è, se lei è commemorativa? Chi l'ha fatta fare? Non so, c'era già quando sono arrivato e non ho ancora visto qualcuno che non tornare a rendergli omaggio. Almeno non che io me ne sia accorto. Vabbè. Ok, un altro pezzo di riuscita. Però è una delle tombe più belle che abbiamo. Non sono fortunati, ma cerco di tenerla. Beh, è vero. Parole sante. Sono un sant'uomo. Ha mai pensato alla carriera ecclesiastica? Parole strane. Ogni tanto. Nelle notti buie. Conte Strad. Vi indica, mentre siete di fronte al cancello, il loro orticello qua in fondo, sul cappello. Faccio una domanda. No, se potrebbe dire che io faccio pregare un sacco di persone, padre. Non dico che ho fatto domande. Il mio personaggio sa, ai tempi di Petrovna, quando era viva, dove erano gli elfi. Cioè, ha senso che sia qui questa tomba commemorativa. Che cazzo non vuoi sapere? Abitavano in questa regione, però probabilmente è stata fatta dopo la loro disfatta, quindi dopo che sono stati segregati nella collinetta insieme ai vistani. Quindi lontano da qua. Beh, ci avete messo quella. Però nel senso, perché qui e non... C'era già quando... Ma quanto è bella l'archeologia! Quanto è bella che mi fa strano. L'archeologia! Probabilmente la ma è monumentale, è una cripta o solo la lapide solo bella? È una lapide decorata. Cazzo, fosse stata una cripta avrei chiesto proprio il giro in tempo. Non si è... Mentre così devo profanare la tomba. E fa vedere in lontananza i giardini dove si vedono un po' di coltivazioni. Un po' trasandato. Ma questo è lupolo bianco. È prezzemolo giapponese. Ci sono dei conigli bianchi. Ci sono anche delle viti. No, perché questo potrebbe interessarci. No, ci sono. È finito non il sarebbe bombino. Abbastanza grande. Questo è basilico cinese. Però dei coniglietti bianchi che zompettano nel freddo. Ma i coniglietti li mangiate? A volte. D'altronde ci sono più di 60 bocche da sfamare qua dentro. E molte persone ne hanno almeno un po'. Esattamente. E che giorni ha? È proprio questo il problema. Io cerco il più possibile di razionare il cibo e di sfamare tutti, ma non sempre purtroppo è possibile. Se viviamo in periodi di grande scarsità di cibo fame. E di bevande. Però la domanda gliela faccio, scusi. Infatti poi io avevo dato il cibo e erano felici. Abbiamo sentito in diversi posti all'interno di questa regione che manca il vino. So che fa sorridere, ma per molti è un problema. No, ho visto che voi trollate il gioco. Ho notato, io ho una cantina. Ah, vino, sì. Ho le mie riserve. La posso chiederle da chi vi rifornite? Oh, tutto il vino della regione viene dalla vineria del Mago delle Vigne. E in genere una volta a settimana arriva qui in città una loro carovana con una mutra, però è da un po' che manca la consegna e questa cosa, esatto, è sentita in maniera molto molto pesante dalla popolazione, perché la carne è debole e cercano consolazione nell'alcol. Per carità, è un vino ottimo quello che viene fatto, veniva fatto. Ormai le bottiglie migliori non si trovano più, è da un po' che è sceso un po' di qualità e adesso quanto sembra è cessato del tutto. Probabilmente c'è qualcosa che tu sei non va nella vineria. Viviamo in tempi difficili, speriamo che il signore del mattino ce la mandi buona. Entrate nell'abbazia, vedete. Ma non gli hai chiesto perché Petrovna ha il sole come simbolo? Non gli hai chiesto perché Petrovna? Vabbè, no, perché se no glielo chiedo io. Perché penso questa che sia come. Perché era il sole di qualcuno, evidentemente. No. Penso che quella. Cazzo ne so. Quella forma ricordi da quello che. L'ho potuto esaminare quel simbolo ha la stessa forma dei simboli sacri che venivano utilizzati dagli incantatori. Ma al tempo, perché il tempio ha una forma di cazzo storta? Perché siamo ai pendici di una montagna e quindi per stare intorno alla montagna è arrivato il veglio. Devo fare un bel po' di spazio, aspetta. Descrizione. Prima che sposti tutto lui. Babbo. Presente. Minaccialo con del cioccolato. Esatto, fai così. Minaccialo con del cioccolato. Personalmente potrebbe quasi mangiarlo se trovasse un coso dei nutrienti. Ti serve questo dalla percentuale. Perché lui lo vuole spostare da qua. Te lo dico prima. No, non metterlo lì. Dammelo qua. Lo sgabello. Dipende dalla percentuale. Ma è fondente questo, no? Se è almeno 80-85 lo mangio. Non tanto, praticamente. Questo non tanto fondente. No, questo non è tanto fondente. Cioè, se per voi è commestibile, vuol dire che c'è almeno un bel po' di burro. Esatto. Ma io di solito non mangio 85% fondente. Bacioni! Caro! Bacioni! Nel cuore immacolato di Maria. Hai fatto il rosario, eh? No, raga, non ho sempre la cosa dietro pronte. Dai, caldo. Vero. Ben arrivato. Ciao, ragazzi. Ho già caldo il suo accanto. Grazie. Accanto sedia. Ha visto che avevo freddo. Erano delle montagne. Ah, sì, per me. Salo, ci stavo chiedendo con Edo. Tu non rientravi negli italiani all'estero, vero? No. Perché comunque allora è arrivato un mese fa, tipo, no? No, no, allora è arrivato tipo la settimana prima, però la richiesta di far molto prima per avere la residenza aerea. Ah, sì, no, sì. No, i tempi tecnici per farlo. Bene, cosa è successo? Stiamo facendo delle lunghissime descrizioni. Allora, raga, ci andiamo. Volevo vedere il Giulio le inizia. Volevo vedere il cimitero della chiesa. Ah, ma qua abbiamo finito. È scritto lapide per lapide. Ah, ma adesso sei vivo te? Sì, è scappato. Che noi ancora non sappiamo che è scappato. Io non so scritturato. Non sta, io sono rimasto che ne stanno parlando con Sal e Giulio. Esatto. Abbiamo parlato. Io rientro a cercare Vez nella torretta che era la scorta territoria. Non c'è Smeralda, non c'è nessuno. Allora torno da voi e dico, rega, non c'è. Entriamo tutti all'abbazia e cerchiamo. Okay. Siamo entrati, lui è stato incuriosito dal cimitero. Sta facendo perché tu pensi di trovare il GDR sepolto nel cimitero. L'ho già trovato. Esatto. Io l'ho già trovato. Okay. Quindi stiamo entrando nell'abbazia, intanto ci descrive quello che vediamo. Molto vero che siamo in questo castello di gente di merda malformata. Esatto. Shaw mi ha detto, non trovo Vardistram. Vabbè, vado a cercare. Cioè, nel senso. Che ci posso fare? Ma certo. Effettivamente noi non sappiamo che è scappato. Semplicemente non era lì dove l'ho lasciato un secondo fa. Ci sta che effettivamente l'idea è. Vabbè, andiamo dentro l'abbazia, da qualche parte lo troviamo. Come sempre. Ugrush. Garro. Ugrush. Bello Ugrush però. Garrosh, ma guarda questa foto. Cioè, ma l'Ugrush non era tipo l'arma nanica. Sì. Ugrush. Per quello me lo ricordo. E entrate nel cortile dell'abbazia e appunto i nuovi arrivati dice alla vostra destra c'è il... Non c'è in questa versione, In questo che parla chi è, scusa? L'abate. No. Non quello che ci parlava l'altra volta. Sì. Ah, quello. Voi entrate qui? Quello brutto. A meno che non sia il manuale dei mostri. Una bellezza sconvolgente. Non c'è quello brutto che dice. Cioè. Lui è l'unico normale in mezzo a tutte quelle creature stronze, no? Sì. Ok. E quello era quello che parlava, che era ritardato. Ah, era il fratello dell'altro. Sì. I due fratelli, esatto, Otto. Era il cane. E questo è di una bellezza sconvolgente, veramente. Sì, è giovane, altante, muscoloso. E fa l'abate. Nonostante sia qui da tipo più di 100 anni. Ah, ok. Però non è un vampiro. Quindi non si capisce perché rimane giovane. Ma è lo stesso che avevi già incontrato. Non me lo ricordo questa descrizione. Ti avrei chiesto il massimale di panca, invece no. Magari puoi chiedere. Ti eri concentrato troppo sui capitelli corinzi dell'entra. La chiesa è piena di panche, quindi. Vi dicevo, entrate nel massimale di panche sollevate. Unire le panche come unità di misura. Entrate qua nel cortile, dove, se vi ricordate, si vedeva questo mongrel con le ali incatenato che cercava di volare, ma veniva sempre ritirato giù dalle catene. Quindi lo rivediamo. Era una donna. È sempre lì, sì. Perché lo tenete in catena? Purtroppo spesso succede che la lucidità e il senno venga perso da qualcuno della casa e per il loro bene vengono tenuti sotto custodi. E infatti qui sul bordo ci sono tante celle chiuse, dalle quali sentite venire diversi rumori animaleschi o meno, e dal pozzo, mentre ci passate di fianco, sentite provenire una cantilena, una tipo una filastrocca. Cosa le cicca questa filastrocca? O questa nennia, come direbbe? C'è un sasso vicino. Sì, lancio un sasso nel pozzo. Dai, stronzo! Toc! Una serie di improperi non ben Vardistran, vieni fuori. I conti i secondi che ci mette a chiedere il sasso per vedere quando sì, l'intelligenza 4 non è che puoi farsi ragione. No, intelligenza dopo poco più di un secondo. 12 pezzi di merda. 12 pezzi di merda, cos'è una bella intelligenza? No, 12 è l'unità di misura della mia intelligenza. 12 pezzi di merda. Scusa, sei un guerriero? Sì, hai preso intelligenza 12? Intelligenza 12? Sì, perché volevo è un uno simbolo. Esatto. Effettivamente, no, perché il personaggio è intelligenza 12, il giocatore. Non lo sai. No, tu senti il toc, che nel senso che sbatte contro qualcosa, e poi il rumore coperto da questa voce. Mi chiede, e quindi per la qualità di tutto il mega, per porre davanti alla categoria corretta. Certo. Perché il mio guerriero c'ha insight e altre cose da investigazione, anche se serve l'intelligenza. Ammazzi, non insight, però cosa investigation. Cosa investigo? Quando ci mettono i innocenti a morire. Esatto. Vabbè, giusto, sta bombardando di sassi col poveretto nel pozzo. No, vabbè, ne ho tirato uno. Ha tirato la lapidazione. E sente queste improperi in questa lingua strana, questa voce poco... Un po' come uno possiamo che provare. È stato... qui faccia sia senso parole da me un ha tirato un sassolino, mica un pietrone. E... ci chiude qua adesso. Ne tiro un sasso sempre più grande. Ci sono tre selle appoggiate dove ci e un chiedo chi c'è nel pozzo. Cavalli. Oh, nel pozzo c'è Mishka. Ah, chiaro. Vi consiglio di non avvicinarvi, non è molto amichevole. È un po' stava lapidando il nostro amico. Spero che non fosse un masso. No, è un sassolino. Ma potevamo tirare tutti una pietra contro la tomba di Petrovna. Ricordo. Così per commemorare. In loving memory. Ormai ci ha messo una pietra sopra. Oh, mi scappa da piangere. Poi ci sono una serie di piccoli pollai. Una fattoria, una pazzia, dai. Ognuno di questi contiene un piccolo mongrel. Che ah, non ci sono le galline. Dipende. Ma le fanno le uova i mongrel? Questa è un'ottima domanda. Che creature sono questi mongrel? Un misto animale e umano. Quelli che abbiamo visto finora. Persone con dei mix a cazzo. Sì. La razza. Si chiamano mongrel. Il mongrel folk, quindi la gente mongrel. Sì, mongoli. Effettivamente loro sono fertili, quindi due mongoli possono procreare. Ma nasce uno a cazzo o uno che è la mischia? Nasce in maniera casuale, quindi c'è anche una probabilità che nasca un bambino normale. Pure, sì. Figa. Per quanto sia molto ridotta. Non nasce un bambino normale, non sono normale adesso. Sfugge qualcosa. E vi racconta appunto l'Abbot che insomma ha ricercato un po' di provare come funzionava questa cosa. Mm-hmm. E gli dice che quindi c'è invece che giocare con i piselli lisci e rugosi, lui giocava con i mongrel. Esatto. Che è il prete, che è il pino. Grazie, citazione. Quindi è un allevamento. Ma anche un cucchiaino, in un certo senso, cioè, più o meno. E vi raccontava che i primi che creava riusciva è sempre complicato. A un po' di domande difficili. Questo cucchiaino mi fa un algoritmo per farlo, cioè è difficile per me. L'abate riusciva a invertire la ci vai di Mogano Vez la creazione, insomma la sostituzione delle parti del corpo nei primi che creava. Una volta però che questi figliavano, i figli erano così, perché ormai anche tornati normali? Curase. Grazie. Proteine. No. Non capito mai che un originale tornò normale, poi però tutti quanti decisero di rimanere nella forma attuale. E dopo la prima generazione i primi che vennero i primi, quelli che ha creato lui, sì, poteva anche rimetterli a posto. Ah, una volta salvati, tra virgolette, riusciva a però loro hanno detto: no, ci piace essere degli storpi mostri. Ok. E quando figliavano, però, gli storpi mostri, ma poi il figlio. è come quando uno è decappato, non sa di fatto sempre di essere decappato. Però cioè, hanno delle se proprietà, delle capacità soprannaturali. Non ti piacerebbe avere un paio d'ali, un segugio? Accorto? Un pene di elefante. Un po' un braccio. Po' complicato dopo. Ecco, al posto di un braccio. Mi sbatto le palle. Diciamo che dopo parti segoni a due mani. A due piedi. Non so che fascia protetta ancora per fare questa. Ma il nostro programma è rated. Ciao bambini. Magari ci possono la mia seguirci. È uscita abbastanza male, Salvo. Mi dice appunto alla vostra destra c'è insomma la sala principale, quella dove gli altri sono stati. Devi fare un salto? Sì. No, prego. Perché dicono che dico una balla quando dico che sono alien. Oh, mi hai coperto? È stronzo. Sì. E poi scrivi i falsi diranno poco. Allora fammi tu allora il manager delle negozi sociali. Con i suoi amici, noi siamo delle merda. Siamo qua, non è che un WhatsApp. Scusate, sto parlando con i miei amici. Ciao, scemo. Appunto, alla vostra destra c'è la sala principale, alla vostra sinistra invece inizia il mattatoio. Oh, Giulio, dove volete andare? Via da questo posto, poi c'è la risposta giusta. La fumava. Cioè, vabbè, io... E come in tutte le abbazie, qua c'è il mattatoio. No, io propongo di andare nella sala principale, cioè dobbiamo... Io almeno... Cioè, anzi, no, questa è la sala principale. Scusi, Abate, come mai c'è scritto il lavoro rende libri all'ingresso della Abbazia? No, all'ingresso della Abbazia c'è scritto... C'è scritto... No, deformazioni rendono libri. Viva Mengele. No, possa la sua luce curare tutte le malattie? È uguale. Ma lasciare ogni deformazione se era meglio il lavoro in delibere. Sì, sì. No, vabbè, io dico di andare nella zona, diciamo la zona comune. Ci va nella stanza con scritto doccia. Non ci sono. Mi dispiace. E qui c'è piano. Perché c'è un vabbè, dovranno processare gli animali. Processare. Non avete ancora mangiato, avete fame? Un pochino, certo, un buonino. Ah no, noi siamo, noi ci siamo sfondati, noi siamo sfondati da strada, non c'era, sono un po' pieno. Ha dato da mangiare e da bere quando siamo arrivati. Esatto, c'era un la tavola apparecchiata, sì, sì. Qualche cosa. Non so quanta roba abbiamo voglia di mangiare, vedendo quella merda che c'è in giro. Però il vino. Visto che hanno dei conigli, il coniglio quando lo spuoi lo devi fare, lo farai nel mattatoio. Però non lo mangiare tutto, magari dei pezzi tienglieli per i suoi esperimenti. Ma io mangio, noi ci siamo riempiti delle merde vorresti, da strada. Non vorresti la cosa da non hai fatto un viaggio lungo per arrivare a noi. Vero, ma no. Scusa, il vantaggio dei mutri è che hanno vari animali, no? Una carrozza. Sì, ma quindi per avere uno c'ha tipo delle alette di pollo, delle alette di pollo e si mangia così. Vabbè, è come se vai alle AI e ti sfondi per tutta la giornata, poi non è che dopo due ore fai merenda. Sì, è stata a casa di strada, non è che è stato in un ristorante. No, appunto, è molto meglio la casa di strada. C'era è un molto meglio delle AI a casa di strada. Diciamo che come c'era un bacchetto. Torniamo indietro. Anche perché siamo abituati a mangiare merda e topi. Esatto. Era pieno di ali ben cioè il nostro pasto medio è tipo pane raffermo, carne secca. Si chiamano fistani. Di che mezzo ha risolto il nostro dubbio sono su tornare dall'altra parte del party. Ha splittato con lui da solo il top. Non mi sembra vero di essersi gelato con una figa qui da solo, lo seguo e se glielo butto tutto il giorno. Infatti, lo faccio per non darti la strada. Infatti ha chiesto, infatti aveva chiesto anche a Esmeralda di andare con loro, sperava nel triso. Ma non c'era, ci stava il tutto. Cioè, partito con quella senza una gamba. No, ma adesso il mio personaggio andrà ancora più nella follia, comincerà a sacrificare centinaia di persone solo per salvare Irina. Basterebbe una persona per salvare Irina. Prenderà Irina, a un certo punto arriverà Vets, tipo le cosa? E dirà: è una persona per salvare Irina. Ma anch'io l'ho buttata Irina. Io l'ho buttato a te, strada della giù di te. Chi sia vuoto. Curato dopo la vino. Cosa state discutendo? Tu dici sacrificare mille persone per salvare Irina? No, basta sacrificare una persona per salvare Irina. Cioè, tipo Tatian. Cioè tipo Strad? No, tipo uccidere Irina. Tipo Irina. Ah, ok. Sì. Ma probabilmente lei non sarebbe d'accordo. Ma puoi provare a fare. Cioè, ma va bene. Sacrificare Irina per salvare tutti. Invece io sacrifico tutti per salvare Irina. Ti piace. Sacrifica anche te stesso per salvare Irina. Ah, quello è. Come disse Capitan America, noi non scambiamo. Oh. alla fine però quello l'hanno però scambiata. Vabbè, però l'ha detto. Niente più brutto del mondo. Sì, tra l'altro. No, era in curriculum. No, diciamo, no, in quello in cui c'è stato lo scambio di vite. No, sì, ma noi non scambiamo vite, lo dice in Infinity War. Non lo dice in Civil War. No. Dice quando devono uccidere Visione, quando Visione dice "Stupratemi la testa", mentre così Thanos prende la gemma. E tutti sì! Però il Capitan America fa no, non lo scambiamo, no. Uccidiamolo. Portiamolo in Africa dove i neri gli spaccano la testa. Sì! Molto bene. Vabbè. Voi che non ci siete mai stati prima, entrate in questa grande sala con questa tavolata apparecchiata e anche voi altri fate conoscenza di Vasilka dell'ammiraglio Strano. Lui è lui, è la prima volta che ci entra. E anche Bayer. E Bayer, non è vero, è anche lui, da ricordare. E Vasilka appunto è questa che non è stata una gran mossa dargli il medaglione, mi sa che non c'è mai. Vasilka non era quella che hai conosciuta, grazie. Sì, Vasilka è lo zombie, è il golem di carne. Sì, il golem. Di carne che ha creato sotto forma di Tatiana. Ah, ok. La vedete anche voi. Faccio un'investigation per capire cos'è. Quella specie di ninja che è partita via con Bez, invece col pirata, come si chiama? Esmeralda. Non è partita con Bez. No, noi non lo sappiamo perché non la vediamo. 19-22. Noti chiaramente sotto un spesso strato di fondotinta di cipria che la sua pelle appunto è percorsa da... So che l'influenza di Vez, però potevi chiederlo a noi, te lo dicevamo, tranquillo. No, lui invece sta guardando una cosa di cui voi non avevate fatto caso. No, fatto che appunto la... corpo della di Vasilka è percorso da queste righe e a un attento esame si può notare che sono vari pezzi messi insieme. Frankenstein. Esatto. Però quelle cose che di solito non si notano quando parli di una persona che era molto toccata. No, non è bulloni. Però sì, a un attento esame si notano le varie parti. Esatto, per costruirla, ha una sigaretta, una sigaretta. Avevo capito piselli. No, anche io ho capito piselli. No, è Sally di Jack Skeleton. Sally. Beh, Coxy. Cazzo. No, a me sembra più non aprite quella porta. Sì, questo posto sì. A me sta sembrando hostel questo posto. Quindi... No, ecco. Sì, più o meno. Sì. È appunto, per me sta diventando hostel. Fisso. Mi ci sto trovando bene, sono anche amico con la bar. Sì, appunto. Sì, ho dormito nell'unica parte sola. Abbiamo fatto un riposo lungo, sì. Yes. E gli dice... Ho perso dei punti mentre ero via, no? Gli dice probabilmente sarà tornato all'alloggio. E vi fa strada e vi porta al piano di sopra. Piano di sopra vedete voi appunto nuovi arrivati, il caro vecchio Clovin che è ancora lì che... suona il violino cercando di far addormentare la sua seconda testa. Non ha mai pensato di recidere l'altra testa? Non penso sopravvivrebbe all'operazione. Io no, sì, non vogliono provarci. Ma cioè quello chi non sopravviverebbe? L'essere completo. Uccidere. Vabbè. Cioè sopravvive solo la testa che tagli. Lo voglio che è quella che piange. Ma è comunque un ottimo servitore il caro Clovin ed è la persona qui dentro di cui mi fido. Ma sa suonare bene? Sì, è una musica celestiale quella che viene che calma la stessa lingua. I sentimenti. Qualcosa di un po' più allegro. Vi dicevo, in questa stanza c'è questa tavola grande come questa coperta da una grossa coperta nera e sotto della quale ci sono cose di... Posso fare un perception per capire cos'è? Dimmi, scusa, qualcosa un po' più allegro. Posso dire. Non vuole svegliare il piccolo. Cerca di addormentare. Perception perché più sotto coltello che ho fatto 10. Sono attrezzature da chimico laboratorio o anche da chirurgo, casse e varie cose. E c'è una campana in questa stanza che ha la funzione di essere suonata per annunciare i pasti, che quando il compito di Clovin appunto è andare a nutrire tutti gli altri, cosa che lui fa di malavoglia e gli altri lo vedo che c'è una sessantina di bocche lo vedono di cattivo auspicio, no, non di buon occhio, perché sostengono insomma è opinione tra, se lo chiedete agli altri mongrel, che Clovin li tenga a stecchetto per farli morire. Secondo me è vero. Ma Clovin è l'unico, e Clovin e i due fratelli Alingas sono gli unici liberi per ora che abbiamo visto. Per ora che avete visto, sì. Sono tutti incatenati a parte i tre che finora abbiamo visto. No, la maggior parte vivono nel mattatoio. Sono mattatoio? Sì, lo dico proprio così. Lo sorpreso. Chiamiamo così, c'erano dove insomma una volta tanto tempo fa si lavorava insomma il bestiame. Ah, ok, era un mattatoio veramente, era un mattatoio. Era. E adesso viene usato come alloggio per tutti i miei preziosi amici a quattro zampe e più. Comunque Mentre camminiamo dico che il lavoro è notevole, però si vede una cicatrice, un attento esame, cioè bisognerebbe fare qualcosa. Purtroppo sono riuscito a fare quello che potevo con la materia prima a mia disposizione. Si può trovare la nuova materia prima. Sono d'accordo. E infatti vi vedo alquanto ben nutriti e di bell'aspetto. Ditemi, non sareste però interessati a una qualche miglioria in cambio? Vedete, io potrei anche offrirvi i miei servigi di guaritore, sarei anche in grado di offrirvi addirittura di risorgere un vostro amico caduto dalla tomba. No, quando è stata, già fatto tutto. No, in realtà ci sono due che hanno ancora i punti negativi. Io? Anzi, tre. Io. I tre che non sono andati da strada. Già. Effettivamente vi vedo un po' sciupati. E invecchiati. Ci potrebbe fare qualcosa. Ovviamente quello che ha più punti negativi è quello che è scappato. Vabbè, io tre. Che a parte non so tu, ma io non mi faccio curare da questo. Cioè, mi spunta un'ala di pipistrello così a uso ridere. Quindi cosa stava dicendo? Mi si offre di insomma, dato che è sempre alla ricerca di nuova materia prima, magari potrebbe migliorare la vostra condizione in cambio di un pezzo di noi. Qualche pezzo. Che pezzo le serve? Ma avrei bisogno di paio di. Mi piacerebbe molto avere una bella, un bel paio di spalle, una schiena forte. Purtroppo quello è molto raro perché di solito. Ma per cosa? Beh, per fare tentare. Uno che ha bisogno di un paio di spalle. Non è mai detto dammi una mano. Ma tanto poi lui si trasforma in un animale e recupera. Quindi te cosa vuoi, Tevez? No, però perché lui intendeva per la donna se hai bisogno di materia prima, non a caso. No, non solo, cioè, dato che è molto scusate, difficile come. Un secondo. Prima di cominciare la live, Tevez mi fa: preferisci vedere me o vedere Arci e Sci? Ha messo l'imperatura su di sé per poi andare sul divano. Effettivamente, come sta quello che vede Sandra? Non lo vediamo. Vedi adesso? Quello che vede Sandra. Va bene, girala. Ancora? No, dall'altra parte. Non puoi farlo tu. Sì, vede voi, no? Sì, però vai più là. Vai più là. Non penso che riesca a vederli tu. Vai, fidati. Sì, fida ancora un po'. Ecco, top. Sì, se voi state così. Però se sto così. Esatto. Ti vedo uguale. Al massimo sono io che se faccio così non mi vede. Sì. È Giulio che non vede. Sono io che se vado indietro non mi vede. Se sto così. O sfondi e vai in camera di Vez. Aia. Ti hai fatto male il posto. Sauron. No, vabbè, sono gli Argonauti. Potrebbe servirmi non solo per migliorare. Ti serve la pelle della schiena e la pelle delle spalle. Non ti serve il deltoide. La pelle è la cosa più facile da recuperare. La materia prima che manca è proprio la carne. Sì, no, ho capito, ma per cosa? Queste belle spalle. Mi spieghi una cosa? Cioè, lei mi cura togliendomi le spalle. Chiaramente, posso sostituire con qualcosa di migliore. Ok. Ma per cosa la useresti questa catalogo? Schiena in queste spalle? Cioè, dipende da come viene dalla qualità della materia prima. Se un catalogo, posso usarla o per esercitarmi, spalle, migliorare la mia arte, oppure migliorare addirittura le creazioni esistenti. Ha un catalogo. Ma perché ci sono diverse creazioni oltre a... non è la prima basilica. Ma sono tutte, cioè, della stessa tipo? Oppure le altre erano così random? Cioè, sono tutte dei tentativi di ricreare Tatiana? No. Ho fatto prima pratica con all'inizio quello che trovavo senza un design in mente. Le dirò, buon uomo, io sono sempre a favore dei progresso sugli animali, no, del progresso, della scienza. Quindi le offrirò il mio paggio. No, Garrosh. No. Due spalle forti. Sì, quelle sì che sono delle spalle. No, guardi, io ma un nano di merda, cioè. Ma mi accontento di quello che riesco a trovare, un occhio o Che bel paio di baffi, signor. Vabbè, i baffi sì. Beh, i baffi vuol dire anche. Sì, okay. Che bel muso accurato, signor Race. Per mia fortuna ora mi sento bene. Se mai avrò bisogno le chiederò senz'altro aiuto. Vabbè, non deve essere per forza un pezzo del loro corpo. Basta che sia un pezzo di corpo. Oh, certo, però appunto. Beh, se, sì, riesce... certo. Se gli porto qualcuno, ok, se deve curare me e in cambio gli devo dare le mie spalle. Appena detto che basta che gli porti un pezzo. Sì, no, però è chiaro che i pezzi migliori vengono. Per problemi di rigetto, immagino. Vengono? Vengono harvest. Raccolti. Ah, ma lo portiamo vivo, cioè non è che noi facciamo le cose fatte per bene. Magari in maniera consenziente sarebbe il massimo. E adesso non è che quando uno non è consenziente ci sono le tossine che fanno il rigetto, Il problema dei danni, il problema è che se tipo mi fa crescere. Vabbè, una botta in testa, la persona non è né consenziente. Volevo portarvi dove pensavo si trovasse il vostro amico nella caserma. Comunque non è un problema nostro perché noi siamo curati. Comunque sei così superficiale che ti basi tutto sull'apparenza, anche se ti mette due funghi sulla schiena, amen. Anzi, meglio, i funghi si cibano di cose, di rifiuti. Ah, è vero. Esatto. Scusa, tu sei un montone. Se ti escono due ali. Non sono un montone, è un po' diversa la cosa. Pensaci, potrebbe farti diventare un montone o qualcosa di molto vicino. Metterti le cose. Gli zoccoli al posto dei piedi. Esatto. Bello, filottete divento, che bello. Il mio animale totem è il montone. Animale guida. E vi fa strada sui parapetti dove vedete i soliti spaventapassi. Okay, quindi ci conferma al di là del cucchiaino. Quindi. Volevo vedere la faccia di Vez. Stata bellissima. E quindi confermi. Intanto siamo passati negli alloggi e non c'era Vez. Confermi. Sta portando nella caserma. Una stanza con dei letti. Beh, in una pazzia c'è una caserma, un mattatoio, poi c'è anche una chiesa. Dove stava le guardie? No, vabbè, il mattatoio è normale. Magari la caserma mi. Cioè, se hai in un'abbazia i frati hanno tutte le cose. Potevano fare la birra invece che le bestie. No, ma anche magari ci avranno la birra. Ce l'avete la birreria? No, andiamo a vino. Ma non avete la vigna, non fate voi il vino. Purtroppo. Avete il clima. Bisognerebbe porre rimedio a questa cosa, ma l'arte del buon vino è un segreto che custodiscono i proprietari della vigna. Però comunque con questo clima, sì, cioè c'è bisogno di sole per le vigne. Infatti nessuno sa come ci riescano a produrre un ottimo vino mi sono chiesto spesso, ma non ho mai trovato risposta. Magari se qualcuno andasse da loro. Ma porca. Comunque ma è finito il vino. Entrate nella caserma e dentro c'è Smeralda che sta studiando delle scartoffie, complottando e da sola. Esatto. Si gira verso di voi. Pare così. Sì, sì, è vero. Delle facce nuove. Chi sono i vostri amici? Sono. Beh, li ha visti. Chi sono i vostri amici? È deficiente questa, è rincoglionita. Nel senso, presentatemeli. Ah, minchia, fa pure la preziosa. Lei sono i nostri compagni di avventura. Oh, molto piacere. Mi chiamo Smeralda, e voi? Atanas. Piacere, Atanas. Sono Race. Ciao, Race. Vabbè, cioè. Lo zombie bar. Beh, suppongo che anche voi abbiate avuto la fortuna di capitare per caso in questa ridente terra. No. Ma lei non ha delle parti strane, non mi ricordo. Lei ha una gamba di legno, una protesi. Ma anche lei quindi è stata operata dall'abate? Oh no, questa è una vecchia ferita di guerra. Beh, perché non chiedi all'abate di aiutarti? Con noi si è Appunto, scusa, no, l'abate è lì con noi. Non puoi far ricrescere i pezzi del corpo? Cioè, puoi riportare in vita i morti, hai detto. Oh sì, ma quello appunto mi sono già tecnicamente se portiamo una donna viva può mettere la gamba della donna viva attaccata. Alla signora, ma ha gentilmente declinato l'offerta. Avrà una magia per far ricrescere l'arto. Sì. la magia per far resuscitare i morti. Grazie quindi, del pensiero, Atanas, ma veramente sono a posto così, grazie. D'altronde noi siamo le nostre ferite. Illidan. Signorina, vorrei interromperla e non vorrei. Però noi stiamo cercando il nostro compagno. Barris d'Anselmi. Era qua, pensavo fosse con voi. Ok, quindi non è in quella direzione dove stiamo andando. No, anche perché qua è un vicolo cieco. Intuizione! Vabbè, sì. È vero, insight. Effettivamente non ha mentito. Non sa dove è andato. Cioè, era, ha detto, era qui. Ora non c'è più. Sì. Quando siamo. Quando io e. Pensavo fosse con me. Quando io e Pat siamo usciti a parlare con i nostri amici, tu eri nella torre con lui. Poi. Poi siamo tornati in qua e lui è andato via. Dove è andato? Ti ha detto qualcosa per caso? L'hai visto preoccupato? 21 insight. L'ho visto uscire giù dalla porta dell'abbazia. Ha detto qualcosa sulla direzione in cui stava andando? No, non me l'ha detto. È strano che se ne vada così. Vabbè, non c'è neanche Irina. Ma non mi ha detto niente. L'ho visto un po' preoccupato, ma magari voi potete spiegarmi che. Preoccupato è normale, è strano che se ne sia andato. Magari potete aiutarmi a capire, insomma, che cosa lo tormentava. Ma in tutto questo Irina era con questo lui. 21 insight sprecato così. Cosa? Irina sì. Era con lui. Irina era con lui. Ma ditemi quindi che cosa vi porta in questa redenzione? Per caso l'ha spaventato qualcosa? In che direzione è arrivato qualcosa ad uscire dalle porte? Da dove è uscito? Perché noi eravamo all'ingresso. L'ultima volta che l'ho visto ci siamo salutati. Scusami, noi siamo andati dall'ingresso, esatto. E siamo entrati. E siete entrati. Lui è uscito dalla porta, poi dopo la porta, purtroppo, lei non ha la visione a raggi X, quindi... Non può essere passato di lì, c'eravamo noi in cortile. Insai. Cioè, non è passato di qui. Andiamo di scena. No, tira io in deception, scusami. Va bene. Perché lei ha detto di andare nella stradina. Io gli ho chiesto se sapeva dove era andato, sa dove era passato. Non so se poi lui ci è andato veramente. Non l'ha visto andare. Sì, ma Kata, il discorso scorso è se uno mente. Sapendo di mentire, merita il tiro su intuizione. Se una dice verità perché non lo sa un'altra cosa. No, e come fai a sapere se tu hai la verità o sta mentendo? No, sei tu che devi farci fare il tiro se lei mente. Per capirci se intuiamo che sta mentendo. Per dire se magari tutto, magari fa un sesso rivelatore. Esatto, hai capito? Sì. Ho capito, però appunto. Catalo, non possiamo insegnarti noi come si fa il mago. Però se no. La mia obiezione è facendolo. Sarebbe come sottintendere che effettivamente sta mentendo. No? Vabbè, ma lei. Allora scusami, allora intuizione quando lo tiri, quando sai già che l'altro sta mentendo? Metali. No. Guarda, sentilo. Ma vedi che si è sentito preso in causa. Guarda come si fa nel metagame, guardalo. Vabbè, uno fa intuizione, poi tu. Cioè, esatto. Se io fossi il master, quando noi uno fa che intuizione... riusciamo a ruolare i nostri personaggi in base a quello che sanno veramente. Poi ci adattiamo. Se io fossi il master quando uno fa intuizione. Cosa Servardi sarebbe scappato? Tiene una magistrale poker face, quindi. No, cioè se io fossi il master, quando uno tira intuizione tirerei sempre un dado a caso. Poi magari so io che in realtà non ha senso tirarlo. Cioè, cos'è che era la parte iniziale che hai detto? Se io? Tu hai detto? Se io fossi il master. Bravo! Ma non lo so! No, vabbè, vabbè. Non è che possiamo usare qualcuno dei suoi mongrel amici immaginari per cercare il nostro amico? C'è qualcuno che è un bravo cercatore? Mi scusi Smeralda, ma per caso non l'ha visto preoccupato? Cioè, deleghiamo tutto adesso. Quindi scusate, è fuggito con lui. Andiamo con lui. Ho capito, se c'è un cazzo di segugio, faremo prima. È vero, ragazzi. Ha visto se. Visto che eravamo un attimo scesi, non l'abbiamo più trovato, vuol dire che è scappato. Io mi fido molto dell'abate. Sono entrato in sintonia. Hai visto qualcosa che possa averlo spaventato entrare nella torre da qualche parte? Che noi non abbiamo visto? No, tutto tranquillo. Lo so se però sto rullando, nel senso se lui sparisce io non so perché. Sono io il personaggio che dico è rilevante. E piuttosto, dottor signor Abate, conosce una locanda qua vicino? una locanda. Questo si ferma rilevante. Come ha fatto a non pensarci? È giusto, un buon negozio di scarpe nella zona. Oh, quelle se ne sono di là. Avrei voglia di un hamburger. No, vabbè, lui magari la locanda più vicina sta pensando che Vezzi sia andato lì. È inutile cercare dove Irina, tanto a me non interessa dove. No, infatti stavo chiedendo lui dove era, non Irina. Ma sti cazzi, non ci interessa. Io volevo un posto in cui puoi parlare con voi di quello che sappiamo. La locanda più vicina è quella a Vallachi, qui la cittadina di di Kretzk è in realtà come una piccola comune. Allora ci può indicare un posto in cui non possiamo essere ascoltati da nessuno e possiamo parlare. Beh, vabbè, basta che salutiamo la Vate e rimaniamo negli alloggi per i casinò. No, perché c'è Smeralda. Vabbè, usciamo in cortile per i casinò. Smeralda dice uscire, se va. La sala dell'abbazia a vostra completa disposizione. Grazie, se basta semplicemente congedarsi dall'abate. Qui dito. Potete, siete miei ospiti, potete chiedermi qualsiasi cosa e nelle mie possibilità. Qualsiasi cosa. Nelle mie possibilità cercherò di darlo. Io voglio il regno. Al massimo mi dice no o sì. Voglio essere l'imperatore del mondo. Beh, se possiamo avere un posto in cui posarci un attimo. Assolutamente. E vi faccio portare qualche cibare, qualche bevanda. Abbiamo già parlato un po'. Non tutto quello che sì, ma l'ingresso della Race vi aveva detto due cose così. Vi fa accomodare nella tavolata e vi dà qualcosa da mangiare, qualcosa da bere e si congeda per andare a fare le sue avanze. Suona la campanella e quindi si prepara a portare la pappa ai suoi bambini. Grazie. Non c'è Smeralda, siamo solo noi. Non c'è Smeralda. Ah, prima di andare chiedo quando c'è la preghiera. Ah, i vespri verso prima di cena. Vabbè, alcune ore diciamo. Sì, avete tempo. Okay. E Smeralda sta nella sua stanza, nella caserma, a fare le sue cose. Chi comincia, voi o noi? Vabbè, io dico semplicemente la mia, cioè faccio uno più uno, cercando di evitare il più possibile il metagame, correggetemi nel caso succedesse. Baron potrebbe castare zona di silenzio per non farci sentire, ma non lo fa. La mia idea è molto banale, base. Lui ha detto, non mi fido di loro, non mi fido di loro, noi riusciamo a parlare con voi, rientriamo ed è scappato, cioè mancano sia lui che Irina. Uno più uno è scappato per proteggere. Perché dovrebbe essere scappato? Invece non uscivo perché uno più uno fa due, quindi è sbagliato. Esatto. Perché dovrebbe essere scappato? Non si fida di voi, evidentemente. Lo conosco da più o meno quando lo memoria. So, però io l'ho visto con i miei occhi, è tipo mezzo impazzito. Togli il mezzo. Cioè, nel senso che a noi. Cioè, Dracarys. È faccio parecchio strano. Cioè, il mio personaggio ha sentito le campane ed è fuggito. Il mio personaggio potrebbe addirittura pensare che sia sotto l'influsso di qualche roba strana, perché non si è fidato di nessuno di noi all'improvviso, addirittura stava per fidarsi più di Smeralda che di noi. Ma chi è sta qui? Tira più un pelo di fica, come dicevano i miei avi. Vabbè, ma quello questa è una quindi è una seguace del cacciatore, ho capito bene. La lieva del cacciatore ed è venuta qui perché ha saputo che il cacciatore era nella regione e adesso, sapendo che Strada sarà qui tra pochi giorni, vuole rimanere per tendergli un agguato. Bene. Convinta, o quantomeno ci vuole provare. Ora, noi sappiamo che Strad percepisce la presenza di Irina ovunque lei vada. L'incarnazione di Tatiana ovunque lei vada. Dico, confermo questa cosa, quindi tecnicamente ora è un po' nella merda. Il problema è che da quello che perché noi abbiamo parlato con Strad e ci ha lasciato gironzolare a patto che noi cercassimo di convincere Irina a sposarlo. Perché secondo me quindi aspetta però non la può forzare. Forse Vardistran in qualche modo ha scoperto probabilmente tante dei poteri di conoscimento sovrumani che voi volevate convincere Irina a sposare Strad e quindi l'ha portata via. Ma questo è molto poco probabile. Aspetta, la mia domanda è possibile. La mia domanda è molto semplice. Voi volete ok, però siate un attimo sinceri. Voi volete dare cioè volete veramente convincere Irina o avete fatto tutto questo per prendere tempo? Noi dobbiamo provare a convincere Irina. Secondo me non è sbagliato provare salverebbe comunque tutta la popolazione. Noi non scambiamo vite. Ma voi siete ci stava. Ma voi siete convinti che una volta che Strad avrà sposato Irina non sarà più una minaccia per nessuno? Questo è quello che Strad ci ha promesso. E se mai tirato, hai tirato su convinto. Intuizione? Ho capito, se l'alternativa è crepare, direi che è normale quello promesso. Beh, non è detto che l'alternativa sia crepare. Tu sai qual è la storia di Strad? Che Irina non volesse, non voglia. Cosa intendi? Perché è maledetto, come maledetto? Sposare Strad? Sì. Non so se io la sola sono solo loro. No, da quello che ho capito, da quello che ho capito non mi ricordo, cioè io la so come giocatore, ma non mi ricordo. Che è maledetto Strad, come maledetto Strad. Beh, chi l'ha maledetto? Vi ha raccontato Irina quando era in salita. Ah, sì, ce l'ha raccontato Irina, esatto. Tutta la storia del fratello di Strad, che la storia lì, visto nella pozzanghera. Sì, vabbè, quelli sono gli antefatti. Ma perché Strad è diventato Strad? Cosa vuol dire? È stato maledetto. Perché è diventato vampiro, dici? In sì. Pratica non è mai veramente morto, perché mentre moriva è stato maledetto. Questo sì, queste potenze oscure l'hanno dannato, hanno dannato questa terra. Però l'hanno bloccato, l'hanno cioè... confinato a questa confinato terra. In Saradovia. Saradovia? Sì. E plot twist! Aspetta, dove vuoi arrivare? Cioè, perché ci fai notare questo? Cioè, c'è un, perché c'è un punto spezzando la maledizione. Quindi, cioè, secondo voi, e secondo un po' quello che ho detto Strad, un po' la vostra idea, dando Irina in sposa a Strad, tutto questo finirà? Sì, e tra l'altro sì. La cosa positiva è che Strad lo vuole, cioè Strad vuole, tra virgolette, morire. O perlomeno avremo tutto il tempo per cercare il tempio delle potenze oscure. E siete sicuri che Strad non vi abbia buggerato? No, però... No, avete tirato su Insight. Vabbè, ovvio, ve lo dico in maniera... Cioè, diciamo che a me è sembrato convincente, nel senso che... Alla fine... Ma perché non è venuto con voi? I pezzi dei racconti di Strad, quelli di... Perché ha mandato voi anziché... Non so, a un certo punto della discussione se n'è andato stranito... Cioè, a me fa strano che mandi diciamo avanti che voi anziché qualcuno di più fidato, magari... Beh, cosa ha detto qualcosa in merito. Cioè, perché non è venuto lui? Okay. Sapendo che Irina era. Voi gli avete detto che Irina era qua. Perché, avete detto perché non è la prima volta che ci prova. Ma voi gli avete detto dove era Irina? Gli avete detto è là. Ma lui sa dove. Lui sa comunque dov'è. E perché lui sa sempre dov'è. Non va lui direttamente da perché Irina? Lui ci ha già provato. E? Non ha funzionato nel corso dei secoli. Quindi lui non sì, può direttamente. Non è che non può, è che quando ci prova. La maledizione colpisce. E di solito Irina quindi muore. Quindi l'unico modo per spezzare questa maledizione è che sia lei a volersi sposare l'unico con modo lui. Fa pare un modo comunque. Un modo è convincerla. In ogni caso bisogna provare Irina e provare a parlare. Deve essere è, lei è che è un agente, non tanto quello, ma che qualcuno di estraneo, di terzo, cerchi in qualche modo di portarla a Strada e non sia Strada ad andare a prenderla. Cioè, okay. O magari anche Strada, però con fatto sta che con Strada non funziona la cosa. Esatto. Ok, possiamo sentire quello che. Cioè, magari. Dobbiamo parlare con Bardi stranerina e vedere cosa ne pensa. Alla peggio si discuterà. Cioè, tanto nel senso noi. Nel tanto senso lui sa dov'è, quindi nel senso. E il nostro. Non capisco quale sia il problema. Cioè, non abbiamo fatto niente di male e non faremo niente di male. Semplicemente cerchiamo di convincere. Ho un'altra domanda. Quindi, è tutto rimesso alla sua volontà. Finché Irina. E se lei dovesse non volere? Strad non ha detto che Strad non ci ha minacciato del tipo se non la convincete vi ammazzo. No. Ma no, però fondamentalmente siamo condannati a morte perché non possiamo uscire da qui. Però vi faccio un'altra domanda. Quindi, se Irina in questo nessuno momento. Nessuno può uscire da Barovia senza il permesso di Strad. Sì. Cioè, noi siamo imprigionieri finché non o entrare. Scusa lui, o troviamo una soluzione. Sì, ma Strad volendo può farci uscire lo stesso. Ma no. Cioè non vuole. Sì, se volesse sì. Però vuole. Dobbiamo dargli qualcosa per farglielo sì, volere. Però il nostro favore è di provare a convincere Irina. Non è che possiamo assicurare che Irina ci dirà di sì, ovviamente. No, chiaro che no. Però se non ci riesce si incazza. Però nel caso gliela portiamo. Ma faccio un'altra domanda. Ah, perché io. Anche portata a forza va bene? Sarebbe meglio di no, ma delle due. Però faccio una... allora, se lui non può direttamente prendersi Irina, poi a forza non è che dobbiamo in questo, ucciderla in questa no, portiamo, la contro la sua volontà vuole, vabbè. Non è uguale che se la faccio lui. Un'altra domanda, no, perché quando lui cerca di prenderla che Irina muore sostanzialmente quindi, tutte le volte. Faccio una proposta io. Per il momento in teoria abbiamo tanto tempo, perché finché Irina resta da sola con Vardistran, Vardistran ovviamente non vuole dare Irina e lui Strad non può prendersi, aspetta, fammi finire. E Strad non può prendersi quindi direttamente Irina, finché loro stanno da soli e nessuno la convince, Strad può fare poco. Per sì, considera che non è la persona più paziente di questo universo, certo, ecco. Però cosa può fare? Dire che ogni giorno che noi stiamo qua rischiamo di morire. Ok, però è una proposta a cui io stesso direi di no, però diciamo tutte le piste. Abbiamo l'altra idea, che è quella di trovare questo fatidico tempio e sconfiggere Strad noi stessi. Ma perché? Non ha senso. Aspetta, era l'idea iniziale da cui tutto è partito. Ok. Domanda. Se facciamo finta noi sapessimo dov'è il tempio, trovassimo l'informazione, Vez, Vardistran ci dà l'opportunità di avere il tempo di farlo, forse. Vabbè, ma non ha senso questa cosa, perché alla fine basterebbe portare Irina da lui e ma forse ok, capito? Ma se noi andiamo a prendere Irina e non la convinciamo e tutto questo non funziona e morirà l'ennesima Tatiana, non abbiamo fatto niente. Se invece arriviamo al tempio e distruggiamo Strad, ma se anche se lei non vuole, gliela portiamo in catena e dopo Strad la sua Irina, e poi se vuoi possiamo andare a trovare il tempio. Però se non funziona, se non l'abbiamo convinta, lei non vuole sposarsi e la maledizione non si spezza, ricominciamo da zero. Ho capito, ma almeno Strad ha Irina e per un po' se ne sta buono. Non lo so. Non so se funziona. Cioè, non vorrei che se. Sì, cioè, ma lui non la vuole uccidere, quindi se lei è impossibilitata a fare qualsiasi cosa. Però non hai capito quello che voglio dire io. Se la maledizione funziona, io non lo so. Però, no, vabbè, è incatenata sotto un incantesimo, sotto quello che ti pare. È un'ipotesi. Però se la maledizione dovesse funzionare solo in caso in cui la donna è convinta, portargliela a noi non risolviamo niente se non essere vicini a uno Strad arrabbiato perché non funziona. No, perché lui avrebbe Irina. Lui vuole sposarsi Irina. Ma se Irina... Io non so se la maledizione prevede la possibilità che lui allora, riesca a sposarla. Chi se ne frega, anche se la maledizione non viene spezzata. Se noi gli portiamo Irina e sta qui non crepa... E se sta qui non crepa... E se invece... non hai capito quello che voglio dire io? Il problema è che se sta qui che abbiamo noi, se noi gli portiamo Irina non convinta e questa dovesse morire... Ma non morirà subito! Cosa ne sai? Se la maledizione invece funziona così... Ma morirà non convinta. Tutte quelle non convinte precedentemente sono morte. Sì, ok, ma per nessuno gli aveva portato... Se noi gliela portiamo, lui fa il giochetto di mettersi davanti all'altare e questa, secondo la maledizione, muore per l'ennesima volta... Allora, non sono mai morte così, sono sempre morti violente, quindi se noi facciamo in modo... Ma come muore? Quindi la Tatiana resuscitata ogni questo mi sa che non gliel'abbiamo chiesto, come muoiono esattamente. Perché adesso se lo ricordo. Perché se è lui che le uccide perché la cosa non funziona, non vorrei che sia la maledizione. Non è lui che le uccide, loro le... Ma che ne so, una volta, la prima volta si è buttata giù. Dal torre. Ah, quindi non muore volte. Improvvisamente. È lei che si malore. Suicida tendenzialmente. No, è lei che vede qualcosa. È lei che si suicida. Quindi siamo certi che non è immediata la cosa. Che eventualmente non è immediata. Non siamo certi, ma se prendiamo tutte le precauzioni che possiamo, possiamo. Ah, ok, no, allora l'avevo intesa diversamente. Possiamo allora presumere che non sia immediato, che non avvenga subito. Okay, allora poi, magari una delle mogli di Strad. Ne ha tre. Almeno tre, sì. Ha delle mogli? Tre. Ne avete conosciute tre. Cioè, almeno tre, noi abbiamo conosciute tre il suo tutto fare, diciamo. Ah, ok. Beh, allora, io pensavo che la maledizione lo fosse molto più restrittiva. Cioè, se poi magari poi magari il suo tutto fare, una delle mogli uccide Irina, vabbè, cioè, Strauss la prenderà con loro. Però noi siamo già lontani, abbiamo già del tempo e noi abbiamo eseguito il nostro dovere secondo lui. Ok, allora la vedo in maniera molto diversa e a questo punto sono con voi. Questo è il modo più semplice per provare a risolvere la maledizione. Sì, allora sì. Non fa neanche del male a nessuno direttamente, nel senso che Irina con Strad in teoria Strad non fa del male a Irina. Cioè, però onestamente, aspetta. Viviamo anche in un'epoca e in un mondo in cui i matrimoni combinati sono alla portata di tutti e ci sono ogni giorno. Quindi si tratta solo. Ma sì, anche lo stupro quando saccheggia una città è normale. Si tratta solo di forzare una ammazzare dei genitori sgozzandoli nella loro casa perché questo, questo è esatto perché vendono il figlio per delle paste onestamente o sgozzare un cavallo di... bruciare una carrozza per il a questo punto farmi. Il bivio è rischiare noi la vita e non solo noi contro forzare una donna a sposare un uomo benestante. Beh, direi che direi che facciamo sposare Irina all'uomo adesso, benestante, a parte che non hai letto i promessi sposi, sennò sarebbe finito propriamente subito. No, però è così di fatto, è il modo per fare meno vittime e meno e dare una donna cosa anche perché è molto un po' allora fare il dare in pasto a un vampiro una donna. No, lui non la vuole, non le vuole fare del male. La trasformerà in un vampiro immortale. No, risolviamo anche un grossissimo problema. In realtà no, in realtà no, come diceva Salla, lui vuole finire. Quindi lui vorrebbe sposarlo per avere la pace eterna, di fatto. Sì, ma anche non finisse, la trasformerà in un vampiro immortale. E quindi il problema è la morte. E anche mettendo caso che sia la chance migliore, strazza dove Irina, ma noi adesso non sappiamo. Morire. Esatto. Sì, ma poi non puoi più morire. Esatto. Anche perché il nostro compagno, ok, è molto più complicato. Il nostro compagno, strano, detto Remo, perché Remo è sempre contro di noi, è andato via. Meta Remo, lo chiameremo poi. Meta Remo. Allora. No, a questo punto, ok, sono d'accordo con voi, dobbiamo assolutamente trovare Irina. Quindi. Ma almeno provare a convincerla. Quindi, niente, la questa adesso è che... Quindi, anche perché Vardistran da solo con Irina, onestamente, rischia la morte. Rischia la vita. Anche. Però, in realtà, però, è quello non lo so, nel senso... Fammi spiegare quello che sto per dire. Nel senso che in realtà... Si può dire che rischia la vita? Sì, sì. Non lo so, perché... Lui, Strad, non va direttamente da Irina finché qualcuno non la convince, quindi non avrebbe senso adesso che Strad va davanti e lo uccide. Perché dopo io non può prendersi Irina. Tu rischi no, certo, magari lo fa, no, però no, non avrebbe senso. No, ma come farlo. Ben hai notato in questi in queste settimane di nostra permanenza a Barovia, questo non è proprio il posto più tranquillo piacevole e gioioso. Sicuramente cioè, lui è in lui e Irina sono in grave pericolo a stare da soli in queste zone. Ok, questo l'ho capito. Però dicevo che Strad direttamente in questo momento non credo attaccherà Irina. Cioè, ti becchi anche un lupo mannaro fuori nella foresta, sono in due senza armi d'argento. No, quello sì, il fatto che sia in pericolo perché è l'unica zona, del nostro sì, gruppo c'è. Però non per Strad direttamente, secondo me. Hai capito? Non, adesso Strad non andrà direttamente da Vardistran. Vabbè, non sarà per colpa di Strad. Diciamo dobbiamo che trovarli. Sono in pericolo in generale. Cioè. Cerchiamo se Vardistran semi. Se, due, so, se due di noi fossero in giro a caso, e comunque due di noi sono già meglio di Vardistran. Non per Vardistran, ma per l'altra controparte, Irina, che è totalmente incapace. Aspetta, quanto tempo è passato? Se ti ricordi, i lupi non l'attaccano, ma non il resto del mondo. Loro. Però la maggior parte delle bestie che seguono vi hanno attaccato adesso, al momento adesso vi hanno attaccato a noi, non a Irina quando no. Siete entrati però possono attaccare Vardistran. Sì, Vardistran è in pericolo, no, Irina quando no, ma noi serve Irina. Vardistran andiamo a vedere, capito, ma sarebbe un nostro amico Vardistran. No, noi serve Irina, è il nostro amico, quello che non si fida di noi è scarso. Avrà avuto le sue ragioni, è passata un'oretta. No, ok, e faccio evoco. Io volevo mandare il mio famiglio a cercarmi. Sto evocando io... anche delle aquile, io evoco delle aquile e dico... Arrivano le aquile! Nel frattempo io evoco me stesso, uso sopravvivenza e cerco le tracce. Da dove l'ho lasciato io? Lì dalla feritoia, guardo se ci sono dei passi della terra o qualcosa. Sì. Posso farlo? Dove survival, l'ultima volta. Dove ha detto che l'ha visto l'ultima volta? Lì dalla feritoia che guardava, l'ho lasciato lì l'ultima volta. Grazie, dammi anche la mano dei mostri. Sì. Let me play. Pensavo infatti scendendo a sedere a quel punto cambiavo la, quindi io vado lì, se non trovo nessuna traccia lì vado dove ha detto, sì, facciamo questa cosa poi cambiamone, dove ha detto Smeralda di averla vista, di giocare anche a mezzo, capito? Sì, ho capito e faccio deve giocare anche Vezzo. 13, ci sono varie tracce anche vostre, posso okay, fare? Sì, cerco, provo a capire le sue o quelle di Irina, se riesco. Sono troppe per non so, con l'investigation no, siamo troppe, però posso guardare dove ha detto, ma potrei cercare di capire in che direzione è andato. Direzione, ho solo detto uscito dalla è uscita da quella porta, poi la porta è chiusa. Ah, ma quindi Smeralda mi ha sputtanato. Perché? No, ha solo detto che ti ha visto uscire con Irina dalla porta, ma poi non sa dove sei andato. Cioè ti ha visto uscire, giusto? Ho detto ti ha visto uscire da qui, ma poi non so dove sei andato. No, provo a fare investigation per capire se uno vorreste andare via di nascosto da qui. Hai detto che pensava dove dovrebbe passare. Ma che tale. Papà, io evoco i serpenti volanti. Cosa? Flying Snake. 21. Sono abbastanza sicuro che sia qualcosa che non capisci. 21. Cercare le acque nel manuale giocatore, in fondo. No, allora, ci sono. Solo che dice grado sfida 0. Ragionando. Vabbè, ti serve che guardi, non che picchi. Quindi posso prendere 8. Chiaramente. L'accesso è più comodo. Dice 8 da un quarto. Quindi, mezzo in 3. Cioè 0 è ancora meno. Voi, però ve ne sareste accorti. 8. E vedi sporgendoti dalle mura qua che qua ci sono una serie di finestre, cioè zero ancora meno di un ottavo sotto, che non ha senso zero alla strada, vuol dire che per uccidere una volendo, tre di si vita basta, basta che si poteva calare e muore. Gli spunti. Però non era comodissimo e abbastanza rischioso, allora, probabilmente ci sarebbe stata non so una corda, sono degli elefanti, non lo so Andate. Perché l'aquila vede dall'alto, però comunque ci sarà la boscata. Aspetta, raga, che Katta sta spiegando a Giulio dove sono andato. Il resto della, del perimetro chiaramente bisognerebbe esaminarlo per vedere se ci sono dei passaggi, no, sarà qualcuno che è annuso. Però sì, altri accessi non ne vedo. Quindi chiedere a me se la gramossa in realtà da parte mia, perché? Perché sembra abbastanza complicato capire come uscire da qua in realtà. Sì, se non vai a vedere il punticino che conosce lei. Aspetta, che cosa? Perché stavo parlando. Ho fatto un'investigation per capire quali erano le possibili vie di fuga. Sì, perché l'unica via normale c'eravamo noi. In pratica ha detto che l'uniche sono o le finestre dalle quali calarsi, però non è comune. Da quali calarsi, o oppure bisogna cercare qualcosa. Vado a chiedere all'abate, se conosce qualcosa. Intanto Cappa di Vocotto, serpenti volanti. Sì, parliamo con l'abate e gli diciamo. Si chiamano dicendo. Flying Snake, non so come sono fatti. Sono abbastanza sicuro che sia qualcosa che te lo impedisce. Non sono delle bestie. No, sono animali. Sono nella parte animale. Animali, non bestie magiche. Magari è qualcosa. Sono vicino alle. Vabbè, Cappa è come quando uno fa il gorilla gigante. Nel senso, no, è un animale, ma è. Magico. Grado sfida, scusa. No, sono sti robi qua, solo che secondo me non volano veramente. Sì. Ma i Flying Snake non sono quelli che cadono dagli alberi. Sì, esatto, cioè non. Muore, hanno scritto capacità di volare 60 piedi. Minchia. Non ho scritto io il libro. Sì, il Flying Snake è quello che cioè va tra un albero e l'altro. Esatto. Ma dice capacità di volare 60 piedi. Ma nelle notte magari sono scritto tra un albero e l'altro. Se no, evoco degli uccelli, però. So che a ragazzi piacciono gli uccelli, evocherò gli uccelli, però mi sembrava perché che. L'aquila invece dice che grado sfida 0, quindi non so quanto può evocarne. Beh, perché di un quarto puoi evocarne 8? 8 di un quarto. Sei 0 con quei 8. Zero, cioè, challenge 0. Vabbè. Cioè, gli sputi a un'aquila muore. Cato, scusate, ma perché non va bene il Fly Smith? Perché mi dici che non vola? No, mi sembra strano. Scusa, se googli Fly Snake, cosa esce? Quelli lì, i serpenti che volano tra gli altri. Qua dice a flying snake is un coso colorato, serpenti tra te. È vero, c'è la velocità di volare. Sì, dice che vola. Va bene, tu quindi. Non provoca attacco di opportunità quando vola fuori da me. Io lo disfido un ottavo. Vola. E fa anche un botto di danni. Fa vedere. Ma che tipo di animale è? Teeny beast senza lineamento. Flying snake. Effettivamente sì. Fa vedere, posso. Ha anche vista cieca. Blind sight. Top. 10 piedi. Percezione passiva discreta. Allora. Passo, passo. Vabbè, però. I serpenti di questo genere possono estendere il costo e spostare lo stomaco in modo da far assumere la coda in una forma più larga e concava, grazie alla quale possono gettarsi dall'alto degli alberi. Erano di 8, quindi quanti ne aveva? Ma questa è Pierangela o è D'Angelo? Perché sono per questo conosciuti come serpenti volanti, per quanto aggettivi stesso stretto, no, però non possono propriamente volare. No, però questo è un animale diverso, perché ha le ali questo. Winged? Winged? Ma è un coso di D&D? Sì, è un coso di D&D, sale, spende volanti, tu stai guardando. È un'altra roba, cioè quello che dici. Non è un animale. Ma è nella lista degli animali. È come uno scorpione gigante, che è nella lista degli animali. Ma questo è un serpente con le cazzo di ali. Va bene. Guarda che è il mondo di D&D, D'accordo, quanti ne arrivano? Io devo tirare un D8. E dov'è sto D8? Sì, è un serpente con le ali. Che viene usato per mandare pergamene nelle loro code. Un ottavo. Forte questo. Questo è un disegno che qualcuno ha fatto per rendere l'idea, non so. Arriva uno insieme. Beh, no, non posso magari arrivare anche gli altri. Questo è anche l'elefante con le ali. Arriva un serpente volante. Questi piccoli animali giganti. Non so, a me da questo facocero, due lupi. Però sì, è un animale diverso, perché il Flying Snake effettivamente nella realtà è quello che dicevamo. È questo qua. Ma questo è un serpente. Beh, lo rifaccio. Vabbè, va bene, scusa, Cos'hai evocato di buona non ne ho? Ha capito, e i lupi possono usare. Volare anche loro. Sì. Vai, passo tanto di che fretta abbiamo. Faccio un'altra cosa. Vabbè, ma perché devi fuoco dei lupi che mangiano quei pochi serpenti che ho creato, così di poter creare. È che secondo me... Ah no, i lupi vanno veloci. No, vabbè, lo lascio questo. Cioè, quindi hai tre lupi. No, cosa hai detto? Ho un serpente volante. Ah, ma tu hai bisogno di una creatura che vada veloce? No, infatti. Che li possa cercare. Evoca otto yak. Io vado veloce. È troppo veloce. Io vado veloce. Un serpente volante. Un falco. Due lupi. Un facocero. E due serpenti. E poi solo non si vedono. Idea subito: il facocero lo diamo all'abate. Che ci fa qualcosa. Credo che. Non si può fare. Ti usa i pezzi, no? Eh no, appena lo uccide, scompare. L'ultimo è tipo Naruto. L'ultimo è una scimmia. Sì, e io faccio ancora Frank, ovviamente. Sì, no? Tu hai ancora. Frank, sì. Grande. Scimmia volante! Allora dico, Frank, divertiti con questa scimmia. Magari sono due maschi, è uguale. Divertiti, non vuol dire scopa. Ah, scusa. Vabbè, sei brava, però. Le scimmie lo fanno senza. Quello potenzialmente lo può fare. Butta il cazzo nella vecchia di scia. Penso di sì, posso creare una scimmia femmina per farla scopare. Vabbè, ai lupi vuoi dargli qualcosa magari. La scimmia cavalca al lupo. Vabbè. E va. Ma perché? Perché sì, sono cattivo. Ci sta. E al lupo dobbiamo fargli usare qualcosa di vezzo o... Ah, boh, sì, sto cazzo. Vabbè, ha dormito in un giacimento. Io sparpaglio un po' nelle direzioni e dico trovate. Gli fai usare il giaciglio di vezzo. Cosa gli posso fare? Sì, vabbè, alle quelli che volano dico trovate un uomo e una donna. Scusami, fai così. È un po' vago, però sì. No, i lupi non attaccano Irina, giusto? Ma io sto dicendo di attaccare, sto dicendo di trovare. Fai attaccare i lupi, tutti quelli che incontrano. I lupi della selva, non i lupi evocati. Si può attaccarla, mi sa. Tutto che trovano. Ho attaccato tutto quello che potete. Uccidete qualsiasi. In realtà avere degli animali misti secondo me è meglio che tu dici. Lupi che uccidono. Vez della foresta, c'è da punto di un facocero con sopra una scimmia. Adesso. Oh no, me l'ho. Ragioniamo un attimo. Allora, Crane da Duna. Ragioniamo un attimo sulla geografia, tra virgolette, del luogo. Noi siamo qua. No, sì, noi siamo qua. Vabbè, l'abate conosce qualche passaggio segreto? Non che io sappia. Vabbè, io allora giro a cercare qualcosa. Vabbè, nel frattempo che cerchiamo, proviamo a ragionare. Nel frattempo può giocare. Hai fatto un insight sull'abate, però. Sì, l'ho fatto all'inizio. Anche io l'ho fatto. Sono super BFF. Vai, Beth, finalmente. Ok, non l'ho fatto sui passaggi segreti, ma immagino che mi dia la verità. Chi ci sta frenando? Quella in cui siamo. Allora. L'abbazia è sopra la città. Io e Irina ci mettiamo sul cappuccio. E cerchiamo di... Posso approfittare di questo tempo per andare? Sono le 11 e oggi volevo finire presto. Sì, avevo fatto apposta prima la tua parte. Puoi andare? Grazie. Sì. Devi chiedere. Salutavo. Ciao, Feo. Sei ancora qui? Per il tuo discorso. Sì, dai, ne approfitto sto giro. Bene che non puoi uscire. Sì, infatti... Esatto, non devi chiedere a me il permesso di uscire. Prova col Pokéflow. Vabbè, c'è il divano. Ah, sì, di dove. Ciao, Feo. Proteine. Torna in strada. Perché sono enzimi che creano proteine. E allora sniffi. Sono proteine. No, ma devi, ma sono proteine quelle. Gli enzimi sono proteine. Quant'è la percentuale minima di fondente che puoi mangiare? Perché tu possa mangiare. Cioè... Ah, mi piace mangiare anche dal latte. Sì, no, che tu possa, sì, che tu voglia. No, a me piacciono. 100, 110. No, sai cosa? Non so perché mi piace molto più il 90 del tipo l'85, 80 e 70 anche. Perché no, il 90 l'int non so perché è quasi più. Sono molto più buono. Duro il zucchero negli altri. Rispetto al 90. Cioè tu vai giù, c'è più buono il zucchero. Sì, però come. Vabbè, il latte qua, il latte piace. Più il fondente. In realtà più è zuccheroso più mi piace. Però non so perché il 90 no, invece. Era strano se dicevi, i miei preferiti sono. Il 90 e l'80, ma odio l'85. No. Questo era strano. Posso prendere una parete rossa? Una che? Parete rossa. Sì. arrivato incappucciato in città. Vedi in bagno. Sì. Cerco. Allora, ci mettiamo il cappuccio. Vado via. E voglio cercare Casimir. Lui mi aveva detto l'ultima volta che andava dal Borgomastro per tenerlo buono, perché non era proprio felice di avervi in casa. E soprattutto adesso che gli avete rovinato il loro prezioso gazebo. Ok, allora mi avvicino, chiedo in giro informazioni su dove si trova l'abitazione del Borgomastro. Ok, c'è una casetta. Cercavo di mascherare la mia voce. Vicino a te c'è. Beh, a parte che sei. Sei. Sei marcio ancora. Ah, tecnicamente se ti curi. Anzi, no, cura Irina, così cambia aspetto. Se curi Irina la diventa brutta e non la vuole Strad, brava. Perfetto. Mi piace come. Genio. Strad può rimuovere quella di cosa. Fianco a te c'hai uno dei bastioni delle mura, dove ci passano le guardie di ronda. Probabilmente c'è una dentro, ma non è detto, perché non ci sono abbastanza guardie per controllare tutto il perimetro. Saluto la diretta. Ciao, ciao Sceo. Bella. Ciao spettatori. Grazie. Ciao a voi. Ciao. Ci sentiamo per la prossima settimana. Agile. Ciao Arci. Ciao. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao, buonanotte Sceo. Ah, Sceo mi fa un piacere molto grosso. Yes. E mi puoi dare 50 euro? Secondo me i cartoni delle pizze non li puoi lasciare giù, però il re l'altro sì. I cartoni delle pizze ne sono bisogno. Mm. Sì, non gli puoi chiedere 20 euro, ma 50 euro. Ma ti devo dire molto grosso, ecco. Non so se li prendano, sai, non credo. Vabbè, vanno di me. Allora, poi dall'altra parte c'è una delle casette del villaggio e vedi che c'è un po' di gente indaffarata. Ah, cioè per contattare gente per sentire dov'è, mi stai dicendo adesso, o no? È quello che hai nelle immediate vicinanze. Ok, casette mi hai detto e... Vedi gente indaffarata, fuori ci sono stesi dei panni, alcuni di questi hanno delle macchie. Alcuni anche un po' di sangue, e vedi questa praticamente signora un po' in carne, un po' attempata, tutta indaffarata, che prende, porta fuori panni sporchi, tira dentro panni puliti. E quelli sporchi sono di sangue? Alcuni, cioè, hanno varie macchie, alcuni sono delle macchie di sangue. Vabbè, quella più vicina però. Nelle tue immediate vicinanze, se no poi la strada continua, ci sono le altre case. Vabbè, fammi proseguire un po', diciamo così. Ok, prosegui e le residenze qui sono tutte a un piano praticamente, e intorno hanno un recinto con dentro molti animali, insomma, delle piccole fattorie. Ma non vedo tipo degli spacci, dei negozi, roba così. No, perché mi dicevano che questo è una specie di comune. Però non c'è qualche spaccio. Cercano di essere autosufficienti. Ok. Quindi si producono da solo il cibo. La seconda, cioè quelli, il prossimo che vedo fuori. Bene. E c'è un tizio che sta spaccando la legna. Mi avvicino a lui. Gli chiedo. Un uomo. Prende l'ascia impaurito. No, non abbia paura. Chi è lei? Sto cercando il Borgomastro. Sono un viaggiatore. Ah, non ci piace il viaggio. Ho affari importanti da proporre al Borgomastro. E come vi hanno fatto a far entrare? C'è il blocco dei cancelli da quando quei vandali hanno distrutto il nostro prezioso gazebo. Sì, ma io sono un mercante di vecchia data, non si preoccupi. Sa dove posso trovarlo, però è un po' il tempo che manco da questa città. Resti qui, vado a chiamare, le guardie. Aspetta, ti faccio. Non c'è bisogno. Lei sta facendo un lavoro molto nobile per la sua comunità. Ragionati. No, non è vero, per inganno, sì, e mi indichi soltanto dove recarmi. Non c'è motivo di che si spaventi, eccetera. Persuadimi. 17. La casa del borgomastro è quella più vicina al cancello esterno ed è la casa più grande della città. La ringrazio, buon uomo. E che cosa ho con me? Rivedere. Sì. Beh, è il tuo equipaggiamento. Eh sì, ma non so se è qualcosa di utile. Schwarzenegger ha una figlia. Può darsi, sì, non lo so. Diverso, anche più di una. Gli lascio una. C'è la prova moneta d'argento. Adesso non conosco la famiglia Schwarzenegger. Perché non so quanti soldi ho in realtà io. C'è l'attore che fa quel. Non la galassia si sposa non con ne ho segnati. Schwarzenegger. Non ne ho. Allora. Device might no, non dite dai, ciao. Che se la darmi una mano a spaccare la legna, maledetto vecchio. Ah beh, potrei, no, però no. E beh, non è del tesoro comune che siamo divisi, no. È nella vostra cassa comune, chi cassa ce l'ha, comune. Chi lo sa. Sì, non so, perché qua io avevo... chi, perché non ho mai capito se avevo dei soldi di base o meno. Già. Ce l'ho io la cassa comune. Vabbè. Peccato, andremo avanti. E, vabbè, vado a cercare sta casa del borgomastro cercando di essere quanto più quanto possibile. Sì, esatto, anche con i rini. Dentro arrivi fuori dalla casa e sbirciando dalle finestre, sì, che sono un po' semitrasparenti, vedi che c'è del movimento, insomma, più di una persona all'interno e rumore di voci, ma non distingui nettamente le parole. Senti la voce di Casimir. Sento, ah ok, perché lui avevamo anche il cavallo, quindi magari potevo rintracciare eventualmente il suono del cavallo, però se sento la voce è a posto. Allora, sento la voce di Casimir. In che parte della casa? Al piano terra c'è una sala. E non è l'unico però. Ci sono più persone dentro. Ok, ho la possibilità di... cioè, qui c'è gente in giro? Vedi negli altri giardini sempre gente all'opera, è molto laboriosa anche perché c'è molto da fare per... procurare a tutti quanti un pasto almeno al giorno, e però nell'immediate perimetro della casa fuori non c'è nessuno. Cioè c'è la possibilità magari di mettersi in un punto dove non farsi vedere dagli altri e poter origliare in qualche modo? Sì. Allora c'è un cespuglio. La prima delle figlie si e chiama Irina Katherine, ti chiede io cosa faccio. E niente, acquattati qua con me. In due... stretto, stiamo. Vabbè, e mettiti in vista, mettiti a fammi da palo senza dar troppo nell'occhio. Va bene, si mette e cioè così in modo che io ce l'abbia, cioè dopo da controllare sostanzialmente. Ok, si mette sotto un palo e faccio un perception per gli altri. Ascoltare, sì. Direi 3. Allora, senti le parole di almeno 4 persone, una femminile, una di un uomo attempato, e una di un uomo giovane e una di Casimir. Allora... pensando se suonare o che l'ideale sarebbe beccar lui e basta, però difficile. Non c'è tempo da perdere. Va bene, e allora prendo Irina con me e suoniamo. Lindon, toc toc, chi è? E bussi, le voci all'interno si silenziano. e senti il rumore di passi di qualcuno che sta venendo ad aprirti la porta. La porta si spalanca e dietro c'è una delle guardie che ti guarda, non si aspettava di vederti. Quindi una guardia che guarda? Trasale un po'. Mi scusi il disturbo, buon uomo. Ho saputo che Mastro Casimir si trova in questi luoghi. Sono un messaggero, un inviato, avrei bisogno di parlare con lui se possibile. Posso attendere anche qua? Finalmente vi siete rifatti vivi. E ti prende e ti per mano e ti conduce dentro insieme a Irina e ti segue. Borgomastro, l'abbiamo catturato. I vandali che hanno devastato il nostro gazebo finalmente si sono degnati di ricomparire. E poi vabbè, ovviamente lì c'è anche Casimir che ti vede e dice: Vardistan, non vi trovavo più, ormai ero preoccupatissimo. E c'è il borgomastro che avevate conosciuto la sera prima, sua moglie, che non mi ricordo se l'avevate già vista. Ma lo presentano come borgomastro. Ok, io l'avevate già. Non l'avevamo conosciuto loro? Ah, l'avevamo visto. Quando siete arrivati in città, sì, che non voleva farvi entrare. Non voleva farvi entrare. Dove forse avreste del vino? Allora, io mi inginocchio e dico: borgomastro, è un onore conoscerla. Di queste accuse non so nulla, ma se qualche danno vi è stato arrecato dalla nostra venuta, sarò felice di poter riparare, se possibile. Casimir. Oh, il nobile Vardistran, come le dicevo, borgomastro, non potevano essere loro i colpevoli di questa ignobile atto di vandalismo. Deve essere sicuramente successo qualche cosa di soprannaturale. Il barone è un nano. Praticamente. Infatti la moglie è molto più alta. Barone, sì. È nobile. E comunque, per dimostrare la nobiltà di cuore del cavaliere qui presente, sì, ci offriamo di riparare comunque questo danno che è stato ingiustamente inferto alla vostra comunità. Sì, sarà meglio. E poi oggi sono felice ora che ho ritrovato mio figlio. E di fianco a lui vedete questo giovane uomo che non doveva essere lì. In che senso? Non parlare. In che senso non doveva essere? Nel senso che c'è una cosa che vi devo dire, dice Casimir. Un vampiro. Ieri sera qui è venuto l'abate di notte. Ai. Si è presentato senza. Era morto e l'ha resuscitato. Senza annunciarsi. E chiedendo, dicendo che aveva bisogno di incontrare il borgomastro. Ha detto che il signore del mattino gli è apparso in sogno e ha deciso che la linea di sangue dei Kretzkov non doveva interrompersi. Purtroppo, a causa di una malattia, qualche settimana fa il qui presente ragazzo passò a miglior vita. E ieri sera l'abate è venuto qui e chiaramente il team dei buoni l'ha riportato indietro. Un miracolo. E io mi sento meglio che mai, dice un giovinotto. Ho tante cose da fare, tanti posti da vedere, tante città da conquistare. L'abate può resuscitare e rinalto altre volte che muore. È perfetto. Ti ricordo che un'anima deve essere. Gnegne, l'abate saprà come fare. Non scambiamo vite. Infatti, non scambiamo vite. No, il tacato. Sempre la stessa. Neanche la stessa vita. In cambio, ha chiesto a i baroni di procurargli un abito nuziale per i prossimi, entro i prossimi due giorni. So io dove potresti. Sì, però è sta cosa che spinti il party, uno gioca che cazzo suoi, cioè. Oh, davvero? Sarebbe ottimo. No, ma io lo so davvero? Sì. Sì. Voi l'avete visto l'abito. Beh, abito. La mia moglie stava per partire alla volta di. Nel mio peregrinare mi capitò di far visita al. Com'era? Al Ballacchi. No, sì, ma il ruolo del tizio era l'altro borgomastro. Mi capitò di essere alla corte. Visita alla corte del borgomastro di Ballacchi. Prima di decapitarlo. E lì non potei che. Prima che cadesse. Che rimanere in come si chiama delirio, non mi ricordo, visibilio, no, no. Delighted. E in totale la baronessa dice, ecco, vedi, te lo dicevo che la peccato la moglie del borgomastro di Valacchia aveva un bellissimo abito da sposa e ne parlava sempre quando andava a prendere il tè da lei. Ebbene sì, ed era meraviglioso. Certo. Dice, sì, ho capito, ma non ti posso fare andare da sola in mezzo a tutta quello che c'è là fuori. È troppo rischioso e non voglio perdervi ora che ho finalmente ritrovato mio figlio. Se solo ci fosse qualcuno che la può accompagnare. No, sti cazzi. Non era il mio piano. Ah, paladino senza che ironia, macchie. Sono un paladino buono. Che no, aspetta però. Forse conosco una persona. Ma Irina li conta intanto? Sì. Ecco, so che... recentemente sono arrivati alcuni viaggiatori che provengono da lì, magari sanno qualcosa sulla città. Che faccio sanno sei? Di Ballacchi. Se salvare Stran Iscariota. Pensavamo fossero con voi. Non erano dei vostri compagni. Cioè, non ho capito, ti fidi di noi e non ti fidi di noi allo stesso tempo. No, è che ci vuol mandare. Ho capito, ma non ha senso. Capisci anche tu. Io non posso tornare a ballare. Vabbè, grazie, però. Ce l'avevo, però. Una matita. Magari il borgomastro di Ballacchi si offrirà di inviarvi il. Doveva essere Ballacchi, è stato quando ucciso. Morto. Io ho la sua armatura, tra l'altro. Io non lo so. Cioè, lo so. Lo sai. Lo so, però lì dici non lo so. Il gioco di te, lo so, però non so. No, vabbè, ci sta. Sta ingannando. E non è una persona molto incline alle gentilezze, da quello che mi ricordo. Il buon vecchio. C'è Kevin che magari dovrebbe Vargas. Sapere. Ah sì, certo, lui lo sa, infatti ti guarda un po' strano. Giuda. Non ho capito, cos'è che sa? Hai paura di quel che sono morti. Che Ballacchi è andato a puttane. Madonna, Ballacchi non esiste più. Beh, se Ballacchi non esiste più, no, se Ballacchi non è più raggiungibile, probabilmente anche quell'abito non lo è, quindi un altro abito comunque di lignaggio potrebbe essere adeguato. Non saprei, ho anche abbastanza timore di quell'abate. È il mio danno. È una persona un po' strana e un po' volubile. Forse comunque conosco una persona che magari potrebbe guidarvi. Non so se sia disponibile, ma forse so dove poterla trovare. Chi sarebbe? Una persona, diciamo, dedita ad ambiti circensi, che spesso si reca a Ballacchi per lavoro. E sapresti raggiungere, sapresti contattarla? Forse sì. Non c'è tempo da perdere, bisogna avrei però prima perché... bisogno, se potete darmi un po' di tempo, di discorrere con Casimir di alcuni avvenimenti, se non è chiedere troppo. No, non è chiedere troppo, ma non vedo perché non dovreste farlo davanti a noi. D'altronde non abbiamo nulla da nascondere, vero? No, nascondere assolutamente no. Si tratta solo di una mia situazione privata, nulla, di, nulla che possa interessare le vostre nobili orecchie. Non si preoccupi, qui a noi interessa tutto. Qui non, tra di noi non ci sono segreti, viviamo ognuno a fianco all'altro e il sudore della mia fronte scopriamo tra fratelli e sorelle. Probabilmente sì, perché sennò solo Borgomastro è una cosa un po' per me imbarazzante, perché legata a un mio aspetto di salute che Casimir conosce. Mi sentirei fuori luogo a parlarne qua davanti a voi. Non avete chiesto se c'è qualcosa che possiamo fare per voi? C'è deception, no. Saremo contentissimi di aiutarvi. No, no, non vorrei mai abusare del vostro del vostro tempo. Solo bisogno di parlare con lui se possibile. Beh, nessuno vi impedisce di farlo. Se lo farete qua, chiaramente non impedirà, non posso impedire alle mie orecchie di ascoltare. Ma se, come avete detto, avete modo di recuperare questo vostro amico per andarmi a prendere questo benedetto abito, allora vi esorto a parlarne mentre sarete già in viaggio. D'accordo. Dato che non c'è tempo da perdere. Esiste la possibilità di recuperare delle provviste per il viaggio? Sì. Ve posso dare con voi anche il mio fido mulo con il suo carico di provviste e il mio fedele scudiero Pietro, che di solito Pietro. Lo accudisce. Pietro, te dici Pietro? Tu devo arrivato, ma che non ti vuole andare? Esatto. E che di solito lo accudisce e vi può scortare e accompagnare. Lei è più che generoso, Borgomastro, che dire? Purtroppo c'è, nelle provviste ci saranno insomma pane, carne, quello che riusciamo a procurarci, ma gli alcolici purtroppo. No, ma quello capisco, la siccità. No, non capisce. Capisco, non capisco. Quanto è dura. Senza vino? Sì. Ma dove potrebbe trovare questo? Al mago delle vigne, sto aspettando una consegna da almeno 2 settimane, non arriva. E quanto è lontano da qua? Infatti adesso la faccio io. Vino, vino, vino, vino. Voi siete qua. Vino. Allora, 2 e mezzo. 6 ore. 6 ore a piedi. 6 ore a piedi. E la torre da quant'è invece? La torre l'avete fatto, siete passati. Sì, ma quando è che avevo detto che saremmo visti? 4 e mezzo. Non l'avete specificato. Saremmo visti lì e basta. Ok. 4 e mezzo. 4 ore e mezzo. 4 ore e mezzo. Ok. Pietro? Quindi avremmo eventualmente un lascia passare per tornare alla fortezza, immagino. Beh, certamente, una volta che sarete accompagnati da Pietro, lui può benissimo fare. È giorno, giorno. Voi vi eravate svegliati quando sono arrivati l'ora di mattina, direi che quasi l'ora di pranzo. Saranno le 11. Dice, beh, se vuole potrei fare un salto a vedere intanto dalla vigna se è successo qualcosa, eventualmente fare un salto qua di nuovo. Sono molto combattuto anch'io. Perché veramente non bagno a Lugola da troppo tempo. Però sono stato appena benedetto con una seconda possibilità per avere qui mio figlio e anche questa richiesta, per quanto sia strana, per me è una priorità, perché non si può sapere mai che quello che ti sia donato non ti venga poi strappato via con la stessa facilità. E io mi affiderò alla vostra saggezza, signori, spero di riporre le mie speranze in buone mani. Allora, dice, beh, sì, spero di trovare questo signore che magari ci possa aiutare. Andrò nel luogo dove normalmente so che si trova, non è qua, non è poi così lontano, sperando di trovarlo. Sono d'accordo. D'accordo, va bene. Allora vi faremo sapere appena possibile. Molto bene. Senti delle urla venire da fuori. Che tipo di urla? Al lupo, al lupo! C'è una scimmia su quel lupo. C'è un lupo sulla scimmia. Che cos'è questo casino? Che sta succedendo? E il borgomastro esce con la sua ascia. Gli altri? Sulle spalle. Gli altri guardano dalle finestre cercando di capire da dove arriva. Quindi c'è possibilità adesso di appartarlo. Il figlio prende una spada corta e tutto ingalluzzito esce seguendo il padre. Allora io mi avvicino a Casimir e gli chiedo. La moglie è ancora lì che guarda la finestra. Però guarda la finestra distratta. Sì. Ok, io parto un attimo Casimir e gli dico: hai scoperto qualcosa per il eventualmente per il tempio, qualche idea? Allora io ho principalmente queste preoccupazioni. La strada per il tempio, oltre ad essere molto lunga e in condizioni estreme, perché il freddo delle montagne gelerebbe le ossa anche a un buforso, prima ancora di arrivare alle montagne rischiamo di incontrare diverse resistenze e diversi pericoli che prima andrebbero affrontati, anche perché come vi avevo detto non voglio sprecare l'unica possibilità che ho in voi. A proposito dei tuoi amici, che fine hanno fatto? Il problema è che l'abate è alleato di Strad. Spiegati meglio. Mi è sembrato una persona assolutamente di buon cuore, è venuto qui e ha resuscitato quel ragazzo senza neanche usare componenti materiali dell'incantesimo. Lui è un mago, quindi se ne è accorto. Deve essere una persona eccezionale. Ha varie, diciamo che ha l'abbazia è un luogo particolarmente strano, con varie mostruosità da lui generate. Inoltre è intenzionato a fornire a Strad quanto prima una copia di tu sai chi per compiacerlo, per questo gli serve l'abito. Magari ha dei metodi poco ortodossi, però mi sembra ben intenzionato. Allora. A me invece è più che altro è molto sospetto anche il fatto che lui sia rimasto totalmente giovane da centinaia di anni. Ha parlato di Strad come di un vecchio amico, sostanzialmente. Probabilmente, adesso io non sono un uomo di chiesa, ma credo che sia abituato a esercitare compassione verso ha parlato come insomma se fosse una persona, cioè l'ha proprio elogiato dicendo che è un'ottima persona, quindi mi ha dato proprio l'impressione di essere, diciamo, dalla sua parte. Ho capito. Eppure mi stai dicendo che lui vorrebbe, insomma, cercare una soluzione a tutto questo. Sì. Non mi sembra. Però sacrificando, non ho capito bene che cosa abbia creato, ma un'altra sua, diciamo, diavoleria sostanzialmente. Mi ha dato l'idea di. Non so se ha perso la testa, comunque si è convinto insomma che Strad sia un'ottima persona e vada aiutato. Capisco. E inoltre ho visto che sono tornati gli altri da Vallachi, ma onestamente non mi fido perché una volta che noi siamo fuggiti poter tornare lì significava soltanto morte oppure trovare un'alleanza con Strad, a mio avviso. Quindi non so bene adesso da che parte stiano loro. Pensi che ci possano tradire? Temo di sì. Come pensi? Non ne ho la certezza, ovviamente, ma la cosa non mi piace. Pensi che ci sia un modo per averla, questa certezza? Non del tutto, in realtà. Nel senso che ho conosciuto alla fortezza una cacciatrice che vuole attendere l'arrivo di Strad per tendergli un'imboscata, ma non so se avrà questa forza, e lei ha detto che avrebbe controllato gli altri, però non so se fidarmi del tutto di lei, ovviamente, anche se è l'unica persona da quando siamo qua che mi ha dato l'idea di voler veramente una cacciatrice di vampiri. Credevo fossero tutti estinti quei Sì, lo stesso Strado una volta ci chiese di cercare questo cacciatore, e lei a quanto pare la sua adepta, anche se neanche lei lo trova. Ho capito. E in più il discorso è che degli altri non so esattamente cosa pensare, perché... E credi che questo tuo amico che sta dove hai detto, pensi sia collegato a questa cosa? In che senso, il mio amico, scusa? Quello dovevo andare adesso. Della torre. Ma lui, diciamo che non avevo capito bene da che cosa ci potesse fornire. In realtà adesso come adesso volevo sapere anche tu cosa pensavi, nel senso che io la mia idea in realtà sarebbe andare a cercare informazioni per sconfiggere Strad, così, perché qua sembra che non ci sia un luogo sicuro per Irina da nessuna parte. A proposito, ti stavo dicendo, appunto, il tempio si trova sul monte Varatok, a sud da qui, e oltre ad essere una vera impresa raggiungerlo, anche solo arrivare alle pendici del monte richiede di superare diversi ostacoli, e a sud di qui ci sono delle rovine di una città. Questa città, che io ricordi, una volta era un villaggio come Vallacchio, come questo, e come capitò spesso nel passato, una reincarnazione di Tatiana si nacque in quel posto, e Tatiana sente questa storia e dice: sì, me lo ricordo. E pur di non darmi in sposa a quel maledetto, mio padre mi uccise. E però sono terre che conosci, queste, quindi io ho i ricordi limitati a quelle, alle esperienze di vita passate. No, appunto, dico, e però qualcosa dicevo, Strad per vendicarsi fece deviare il corso del fiume e sommerse la città, distruggendola e gettandola nella palude. E Casimir dice: ora lì vi abita una forte presenza maligna, e quella sì, alleata di Strad, che in tutti i modi cercherà di proteggere. Non c'è modo di aggirare questo. È un rischio lasciarla in tons, cioè lasciarla a libertà di azione, perché è una creatura che vi abita, è estremamente antica, estremamente potente, e se dovesse arrivarci addosso quando noi non ce l'aspettiamo avremo ben poche possibilità di sopravvivere. Chiaramente noi da soli non abbiamo possibilità di farcela, quindi... Che non credo che potremo contare più sugli altri. È un grosso problema questo, perché se non riusciremo a fare quello a sud, appunto, tra di noi e io ragazzuoli, però devo cominciare ad andare verso, purtroppo, che domattina ho un paziente. Vai, paziente. Scegliamo. E però non, se non dovessimo più poterci fidare degli altri, la situazione qua è drammatica, quindi ci serve il consiglio di qualcuno, forse il tuo amico ci può aiutare. Ti dicevo, le altre cose che mi preoccupano sono, oltre a questa, hai beccato la prima? La prima no. Ah, ecco. Forse ve le hanno raccontato una volta in questa valle. E esisteva pare... una... no, ciao, settimana prossima. Questo riposo. Buon time. Ciao Arci, a presto. Bella, ciao. Ci vediamo per il weekend? Boh, sì. Ciao, sono uscito il weekend scorso, quindi per il prossimo forse mese sono un po' prossimi. Avete saputo ciao, che Arci. Ciao. Prima del ancora che la maledizione colpisse questa terra, esisteva questo ordine di cavalieri, l'ordine del Drago d'Argento, sì, che comandava su questa valle. Ok. Strad arrivò con le sue armate e la guerra, la battaglia fu devastante, ma alla fine lui purtroppo prevalse, anche perché esiste ancora qualche ricettacolo di quest'ordine. E l'ordine, oltre appunto ad essere stato fondato da un drago d'argento, e al vertice appunto dell'ordine c'era questa nobile bestia, e il suo luogotenente era un nobile cavaliere con una volontà e delle doti leggendarie. E fu così tanto l'odio che provò per Strad quando lui non solo uccise l'ispiratore del suo ordine, il drago d'argento, ma anche la persona che lui amava. E fu così grande l'odio che provò per lui che con la sua forza di volontà ritornò la sua anima e anche quella dei suoi soldati, sì, e anche loro legati a questa terra continuano in eterno a pattugliare la zona, e solo che invece di la loro filosofia è che è inutile cercare di sconfiggere Strad, e anzi ora lui è condannato in questa prigione per sempre, quindi pensano che tenere Strad qui sia la cosa giusta da fare. Oh, che cavolo, ma come? Quindi ostacoleranno chiunque cerchi di liberare Strad dalla sua maledizione. E non ultimo, sempre a sud. Complimenti, Vez, ottima alleanza. Ovest. Ah, oh, cioè, sono tutti dalla parte di Strad. Le foreste di Svalic sono pullulano di queste tribù di barbari e druidi, e ultimamente le nostre sentinelle mi dicevano che stavano combinando qualche cosa, e dato che sono confinanti con il territorio della Binaria, suppongo stiano cercando in qualche modo di riprendersi delle terre che pensano che gli spettino di diritto. E da che parte stanno questi? Sì, questi sono servi di Strad, ovviamente. Che palle. Ma la cosa del vino, pensi che cioè, a parte la follia della gente, abbia una rilevanza per in qualche modo per fermare Strad? O è semplicemente... Beh, sicuramente questa mancanza è getta disperazione nella popolazione, ed esattamente quello che Strad vuole. E però, cioè, no, avete visto com'è il clima in queste terre? Sarebbe impossibile far crescere delle vigneto. Quindi, secondo me, qui c'è sotto un segreto del quale anch'io ignoro. Per la creazione del vino, dici. E un qualche segreto che probabilmente fa gola molto. Parlano di un mago anche lì, magari potrebbe essere dalla nostra parte. Il vigneto si chiama così perché sapevo che venne fondato dalla famiglia, dallo stesso nome di mago famoso che si chiama Krezko. Esatto. Il nobile Krezko. e che successivamente la sua famiglia si incrociò con quella dei Martinkov, che ancora adesso hanno la gestiscono sì alla taverna Vallachi, quella dove avete qualcuno di voi alloggiato, e si ha la vigna. E da secoli in qualche modo quel terreno riusciva a dare i frutti, e a quanto pare adesso ha smesso, e nessuno ha ancora notizie di quello che è successo. Sì, quindi c'è qualcosa sotto, e per cui prima di riuscire a tentare la scalata al Monte Gakis e arrivare al tempio dobbiamo sistemare un po' di cose, quindi dobbiamo che cercare cosa consigli, allora? Dobbiamo cercare degli alleati ed essere sicuri di chi ci possiamo fidare, di e dove potremmo trovare questi alleati. Proviamo da quella persona che conosco, dalla torre. Potrebbe essere un buon inizio. Ne hai sentito parlare? La torre? No, ok, lui come si chiama? No, non so chi sia. Quando l'hai conosciuto si è presentato come Rodolfo. Rodolfo. Mi sembra, aspetta. Com'è che si chiama? Ah no, scusa, Rictavio. Il bardo. Esatto. Il bardo Rictavio, che devo uccidere. Magari ci può aiutare in qualche modo. E invece, scusa, parlami di questa ragazza che hai conosciuto. Mi sembra molto determinata. Magari potremmo riuscire a portarla dalla nostra e farla desistere dall'idea suicida di affrontare Strad. Dice che vuole. Ho provato anche a convincerla a uscire dal tempio con me, ma ha detto che voleva rimanere lì in attesa di Strad, che dovrebbe passare da queste parti tra 3 giorni. Per questo motivo io non avrei voluto essere qui tra 3 giorni. Magari riusciamo a dargli un motivo valido per andarsene. Qualche idea? Ha detto che è venuta qui in cerca di una persona. Il cacciatore. Magari se riuscissimo a indirizzarla, a dire dov'è. Prima cercherebbe di ricongiungersi col suo maestro e quindi affrontare Strad in due. Probabile, ma come, dove lo troviamo? Beh, se tu fossi in un leggendario cacciatore di vampiri, dove andresti a nasconderti? Cioè, il problema è capire se questo si sta nascondendo o sta preparando un attacco. Diciamo che l'unico posto dove ho visto, diciamo, qualcosa che potesse salvare da strada è a Vallachi nella cosa, però dubito che ci fosse. Nella chiesa? Temo che ormai sia passato troppo tempo senza difese. No, certo, e poi probabilmente magari ce ne saremmo accorti se fosse stato lì. E altri luoghi che ho visto, onestamente, non. Beh, tanto per adesso pensiamo a questa cosa dell'abito. Cioè, scusa, allora magari troveremo qualche perché dizio. Lui dice dove mi nasconderei, cioè dove Strad non guarderebbe, però non so, cioè non che rispetto alle informazioni che ho da te, cioè la cosa c'era, niente, cioè i due posti sicuri erano questi due, questo no e neanche l'altro, e quindi che cosa rimane? Non lo so cosa c'è, la foresta non è sicura. Beh, secondo me dai vistani forse. No, sarebbe mettersi perché, nella bocca. Perché in teoria sono alleati, anche se alcuni non tutti, da quel che ho capito. Io andrei alla torre e vediamo che cosa troviamo. Va bene. E ci portiamo dietro ovviamente anche lo scudiero. Cerchiamo magari di non parlare in modo d'accordo, non appropriato di fronte a lui. E niente, torna il borgomastro con l'ascia insanguinata. C'era un lupo qua dentro, riuscite a immaginarvelo? Cosa cacchio ha fatto a entrare? Sono tempi oscuri. Assurdo. Dovrò fare 2 chiacchiere con i vostri amici, ma perché non sono qui? Che fine hanno fatto? Credo che si trovino in compagnia dell'abate. Credo che si trovino in compagnia dell'abate al momento. Torneranno prima o poi. Ne avrò. Dovrò dirgli 4 Cioè, anche perché, cioè, voi adesso ve ne andate, qualcuno dovrà riparare il mio gazebo. Al nostro ritorno sarò felice di aiutarvi a rimettere il gazebo. Nel frattempo, non so, alcuni dei miei amici mi fido, altri hanno passato strane avventure, potrebbero essere un po' stanchi in questo momento e non desiderosi di essere collaborativi. Queste terre ti rendono un po' aspro. Di chi parla? Cioè, c'è bisogno che qualcuno si faccia qualche notte al fresco? Non ha che da chiederlo. Si tratta comunque di guerrieri attemprati, per il bene della comunità. Magari non è nulla di che, semplicemente lasciare magari qualche tempo per riprendersi, poi sicuramente saranno più collaborativi, credo, se posso dare un mio consiglio. Non vorrei avere dei piantagrani in città. No, quello non credo. Penso. Dai, mandaci le guardie. Finché saranno dall'abate, sarà lui a prendersene cura, immagino. E se dovessero tornare, venire qui? Se dovessero venire qui potrebbero essere arrabbiati con me per non avermi trovato. Ma magari potrebbe far finta di non averci visto per il momento. E dovrei mentire, quindi? Beh, in fondo lei non sa chi sono, quindi non è veramente mentire. Mi si è appena presentato. No. Ah, perché lui mi ha detto che ero Wardistra. È vero. Il vostro amico Velikov comunque ha parlato di voi per evitare che vi cacciasse a pedate dalla città. Come vuole. Il mio è un consiglio onde mantenere la tranquillità in città prima del nostro ritorno. È quello che voglio sopra ogni cosa, però se voi mi dici in fondo che... loro non hanno nulla contro di lei. Però se dovessero aver motivo magari di pensare che sta in qualche modo proteggendo una nostra ipotetica fuga, potrebbero avere delle reazioni inconsulte. Non so in questo momento. Non dovrei dirvi dove siete diretti, quindi? Sarebbe consigliabile di no, in realtà. E che cosa gli dovrei dire allora? Potrebbe dire che ci ha mandato magari a cercare il vino. Nel caso, se dovessero venire dalla nostra parte, potremmo comunque incontrarci a metà strada. È difficile, ma non impossibile. Ma se appunto ha dei dubbi riguardo ai suoi amici, incontrarli da soli in mezzo alle foreste potrebbe non essere il massimo. Ma almeno salverebbe, se davvero fossero contro di noi, salverebbe la comunità da uno spargimento di sangue. Comunque mi raccomando, state attenti, perché certo, le foreste qui intorno sono infestate da lupi mannari. L'abbiamo visto per purtroppo sulla strada verso qua. Cercheremo di essere più attenti possibile. Mi dispiace, mi ha raccontato il vostro amico. Spero che il signore del mattino abbia pietà della sua anima. Quindi io gli dirò che vi siete diretti verso la vigna. Verso la vigna in cerca, sì, per rispetto della sua ospitalità. Ha detto bene. E li esorterò quindi a fare altrettanto. Tra l'altro io non gli ho detto esattamente dove andiamo a questo. Cioè lui pensa che andiamo a Vallachi. Sì. Non gli ho detto che vado alla torre. Andate verso est. Sì. Anche perché di là c'è l'em. Molto bene. Niente. Grazie, Burgomastro. E spero di rivederla prima possibile. E quando esci sono altre due guardie che con le lance stanno dando la caccia ad una scimmia. E chiedo al borgomastro se c'è un'uscita magari posteriore per non andare troppo nel dopo. I cancelli ovest e no, ovest. Dalla casa, dalla sua casa. Ah sì, c'è l'uscita all'interno della rete. Ecco, perfetto. Ma per quale motivo non c'è nessuno qui? A parte sì, questi animali che non so da dove sono usciti. Per appunto non disturbare le guardie nel lavoro che stanno svolgendo, uscire in modo più tranquillo. Mi fido della sua saggezza venerabile. Grazie Borgomastro, grazie ancora per averci accolto. E vi esorto comunque a fare in fretta perché non voglio indispettire l'abate dopo il favore siamo che mi ha fatto. Tutti abbiamo poco tempo in effetti, quindi cercheremo di essere quanto più veloci possibile. Bene. E vedi che c'è il figlio del borgomastro che col suo pugnaletto si mette ad infierire sul corpo della scimmia e poi quella ovviamente scompare, immagino, perché in quanto evocato. Va bene. E niente, andiamo con 13 pietro e cosa? E Tatiana. Ah sì. Irina, sì. Bene, cosa vogliamo fare? Chiudiamo. Avete visto? Ah, e poi chiedevo anche un'ultima cosa, scusa, se Casimir aveva questo web anche nel viaggio, mm-hmm. se aveva un modo eventualmente, so che è improbabile, di occultare Irina, ma suppongo io. Casimir? Aspetta, un occultarla. Alla vista o occultarla alla magia? Occultarla alla magia. Casimir. Vabbè, ci puoi pensare. Beh, qua dovrebbe essere la lista degli incantesimi, questo. Perché usa il mage. Anche se dubito che sia impossibile occultarla Ciccio Strada. Beh, in teoria se Ciccio Strada usa la divinazione ci sono le cose che impediscono la divinazione. Vabbè, se ce l'ha, top. Vedrò cosa posso fare, ovvero devo guardare le sue statistiche. Esatto. Va bene. Nel mentre voi altri cominciate a scendere. No, stavo cercando di continui a cercare le uscite, ok. Beh, avevo iniziato, non finisco. Fammi il tiro. Ma 5. Ci sono quelle delle finestre. E voi altri, Race, cosa fai? Io ho mandato il mio pipistrellino. Uh-huh. E poi niente, poi mi metto a cercare, aspetto che il nano mi dica che notizia ha dei suoi animali. Ok. Ah, niente, nano immagino percepisca che un paio sono stati accoppati. Che tristezza. Poi, boh, niente, io devo andare a fare le preghiere col prete, con l'abate e, boh, se ci ritroviamo da soli scambierò qualche chiacchiera con gli altri. Cioè, con gli altri, poi con Bayern e Race. Molto bene. Perché se la tizia è la cacciatrice, è una cacciatrice. Cosa vuol dire? Bisogna eliminarla. Esatto. Povera Esmeralda. E tra l'altro io ho ancora la pasta dei sogni. Cosa pensi? Le briciole di pasta dei sogni. È una razione intera o sono le briciole? Metà razione. Metà razione. Cosa? No, è così, si rende in offensiva e poi si ammazza. Va bene, dai. Bene. Gente. Allora, avete visto il 16° episodio della maledizione di Katta e il mio personaggio è ancora vivo, incredibile. Nessuno di noi ti vuole uccidere. Sì, esatto, non è che cioè, se ti vediamo non ti uccidiamo. Ma lui, al contrario, C'è più probabile che ti uccida qualcuno nel frattempo. Beh, ci sta. E vediamo appuntamento ai prossimi episodi. Che dire, grazie per averci seguito e buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Bene, signori, vi saluto, che domani devo svegliarmi. Ciao Salla. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Vabbè, tutti dobbiamo svegliarci. A Barovia nessuno si risveglia più. Ciao, ciao, ciao, Salla, buonanotte.